Intanto. nelle puntate precedenti. Allora, cosa non è successo l'altra volta? Sono quattro sessioni di fila che Per succede perché la niente. fai te la riassunto che non c'eri per metà sessione? Ma mi avete detto di sì a tutti. Chi è che la Sì, vuole fare? scusa, Sara, vuoi l'avevo fare tu il pensato. riassunto? Lo fai il riassunto. Vai! Mi è caduto un meteorite in testa. Non credo sia Dai, reale sta cosa. dai, impegnati, porco Dio. Allora, abbiamo ripreso, sì, dall'ultima volta dove avevo incontrato Maria in mezzo alla piazza, intenta ammazzare i quattro tipi che le stavano rompendo i coglioni. E senza Adone, che è andato a farsi i cazzi suoi, non sappiamo dove, che è il Ma tempo del neanche Adone passato. lo sa. Vabbè, Ma che è andato in realtà in biblioteca, se non ricordo male. chi sta parlando? Io non vedo nessuno. Sono invisibile, sì. È Ica che non c'ha la cam accesa. Sì, adesso arriverà anche la camera. Vedete, dammi il Qualcuno te la Instagram. dovrebbe regalare, tipo per il compleanno o qualcosa del genere. Io ti amo, Os, perché dici tutto Gentilios. sempre con la stessa faccia seria, costantemente. Sì, Os è Sono un... allenato. Sono allenato molto per arrivare a questo livello. Devi andare a Va giocare a bene. LOL. A LOL E poi quello. tornare a giocare al basso. Non Allora, None, non quel tasto. Cosa stavo dicendo? Ma confuso Os. Adone è svanito e voi Adone è siete. svanito. Noi abbiamo assistito a Mairi Ezreari che faceva il dispatch dei tipi che le stavano rompendo i coglioni. E Quindi. esatto, andava tutto bene. Elieto ha sentito una presenza venirgli incontro from outer space, I guess. E si trattava di una divinità un po' incazzata. Diru. Diru. Sì, era Diru, era Diru. Dai nomi alle cose. No, che poi prendono forma. Tipici Non poteri dire della orso. divinità dei soldi. Oh, ci sto cam, ma non so se funziona perché ho smanettato un po' troppo con la roba Ormai è da Diru qua passata e prima. non credo ritorni. Il suo potere era spendere soldi per ottenere forza fisica. Beh, Anche alla che fine è come viaggiare nella negli vita vera. astri, tipo, Sì. quant'era? Ok. Ce n'era uno in Bungo Stray Dogs con quel Sì, no, potere pro! Scusate. lì. Penso tu sia la seconda persona al mondo che sento parlare di Bungo Stray Dogs. E la prima è mia madre. Ma che cazzo? Non me l'aspettavo. Come scusa? Va bene, Ma che mia come madre ha Dio. tipo il 90% dei manga che c'è in casa sono suoi. Ah, no, non mi mancava questa nozione. Figo. Impressionante. Non ho letteralmente spazio in sala. C'ho troppi manga. Io uguale con le bambole. Che figata. Andiamo. Molto bello, molto bello. Vabbè, niente, incontrate Diru. Incontriamo Diru, ci battiamo con Diru. Lieto le prende malissimo, perché Diru era abbastanza arrabbiata con Lieto. Lieto non sa perché. Sto dicendo lunga su che personaggio è. Ha una vaga idea, ma non lo sa. E niente, da quel punto in poi Lieto in realtà è morto. Si risveglia in chiesa con Nibel che tipo lo sostiene. E vuole tornare indietro per mangiarsi Diru, però Ci sta, sì, è un ottimo viene riassunto. impedito. E uscendo dalla Era quello che chiesa, volevo. e dove abbiamo tagliato la sessione, incontrate Mif, Yes, che mi che succede? sembra. Vai dal cazzo. Musica Che è, perfetta. esatto, molto impanicata e appunto gli dice: dobbiamo andarcene adesso, dobbiamo veramente andarcene. No, no, no, no, no. No, no, no, Io no, non hai devo capito. tornare indietro. Lieto, sono grata che tu sia vivo e qua tra di noi, però proprio perché tu rimanga vivo e tra di noi bisogna andarcene adesso. Come mai? Cioè. Ho addormentato tre persone dell'esercito, non dovevano farlo, volevano cancellarmi la memoria e io non volevo ottenere la mia memoria, non volevo fare un contratto perché ne ho già firmato uno abbastanza rischioso, quindi possiamo andare adesso, per favore. Vedete Miff che ha un piccalocchio molto potente. E ok, tutto questo casino okay. Perché hai messo un manapenny nella chiesa. A quanto pare andiamo così. Tipo vi prende, no, e inizia ad andare, perché veramente è meglio, non so quanto stiano addormentati. Il fatto però che sia riuscita ad addormentare un tizio molto rilevante all'interno dell'esercito, forse adesso sta iniziando a blaterare, no, forse è rincuorante. E cioè, tipi dell'esercito di prima non mi sembravano particolarmente no preoccupanti, no. Non sono quelli, no, mi no, stai dicendo. quelli a cui è sottoposta Maria. Sottoposta Maria? Più porco. Beh. Va bene. E mi spiace, Ciffa, la prossima volta. Con Facts and Logics Lieto è stato convinto. Nibel era già fortuna. Convinto. Chiesto, sì. Perché sennò bisognava dargli una sprangata in testa di nuovo. Mi dovete dire dove volete andare. Allontano da qua, I guess. Sì, infatti. Ritorniamo alla chiesa. Ritorniamo dal paese, infatti. Infatti. No, non abbiamo altre opzioni. Voi siete sullo schermo. Low profile. Io vi metto qui. Teme. Non ti... Ok. Abbandonate quindi l'idea di andare a trovare la prostituta. Sì, sì, per il momento. Oddio, tanto non scappa. Sì. Come volete, come volete. Cioè, io vi stavo solo dicendo che eravate... Io ho un HP. No, sei fatto finire il processo della macchina del mana, sei full vita, ma non full fatica. Ok, allora sono a 16, correct? Quanta fatica hai? 6. C'è segnato max 16, immaginavo se quello è... Sì, sì, esatto, allora è... 16, adesso fissato sulla scheda. Fammi double checkare per sicurezza, fammi nascondere questa scheda che si è sbloccata per nessun motivo in particolare. E... 22 sì. Mi pare. Sì, sì, 16, 22 meno 6, 16. Torna. Tematica, per una mia opinione. Ok. Per adesso. Per tornare al tempio, direi che evitate di passare per la piazza principale, quindi passate per la stazione. Sono le uniche due strade che portano al tempio. Ok. Per favore. Ok. Piove intensamente come prima, né più né meno, e non c'è nessuno in giro praticamente. La stazione nei dintorni ha degli acquitrini, chiamiamoli, che quando c'è la piena del fiume si allagano, e a un certo punto in mezzo a questi acquitrini vi sembra di scorgere un corpo. E mi avvicino leggermente per cercare di capire di più sul... Ti scrivo una cosa. La scrivo solo a Lieto. Ok. Ok, fanculo. La descrivo a Nibel e tu ci arriverai. È una persona. Indubitabilmente è una persona. Non è una nutria. Sì, esatto. È a forma, cioè è grande, è una persona alta e è distesa face down nel fango. Ok. Ok. Siete nei pressi. Guarda, sta respirando? Piove troppo, c'è troppo casino per riuscire a capirlo. Cioè, a meno che proprio non gli vai vicino, non la tocchi. E... sembra svenuta, morta? Riusciamo a capire qualcosa di più? Non si muove, quindi... Nel senso, c'è un lago di sangue che si sta mixando con l'acqua? No. Non sembra. Okay. A parte che è fango, okay. Quindi è più marrone che blu, però... Vabbè. Vedrei comunque del sangue. Vuoi andare a vedere, Lieto? Io... Non so quanto tempo abbiamo. Non so quanto tempo abbiamo, non so se... mi stiano cercando, però di certo è meglio che non sappiano anche della vostra esistenza. E vabbè, quella che hanno visto sei tu, immagino. voi andate. Sì, Maria Reziadi si ricorda anche di voi due, però. La mia faccia non la sai riconoscere. Come abbiamo già visto. Non sa darti un nome. Vero. Ciao, Sig. No. E... vabbè, vi raggiungo a brevissimo. Faccio il detour per vedere se c'è qualche moneta in tasca di questo poveraccio. Nibel, glielo lasci fare o lo segui? Come vuoi tu? Sì, sì, io sto riprendendo fiato. Ok. Sto pagando lo scotto. Senza che ti dico niente, ti è familiare questa persona. Ok. E ti è familiare la ferita che ha. Ok. E... mi avvicino. E a faccia in giù o faccia in su il cadavere? Face down. Giro face up. È proprio chi sto pensando che sia? È chi stai pensando che sia. Quando giri questa persona face up, noti che sta respirando. A fatica, pianissimo, però non è... gone. E insomma... che hai fatto questa volta? Non ci sono risposte. Mi sa che non ci siamo capiti, ti scrivo una cosa. No, ho capito. Ok. Vabbè, cioè, scrivi, non so, vuoi scrivere, che non si sa mai. Ho 99% sure. Il sito su Telegram, facevo prima. Faccia di Adone, quando tutto è successo. Adone è fatto. Vabbè, guardo se c'ha delle monetine. Non sembra... no, non è vero. Una moneta in tasca ce l'ho. La prendo. Hai ottenuto un manapenny. Di dove? Ottima domanda. E... non c'è nient'altro? No, il manapenny credo sia di Lumiera. Ok. Diciamo che è di Lumiera per motivi di facilità mia. È qualcuno che conosci? Veramente. Vuoi che lo portiamo in chiesa? No, è una persona terribile. Possiamo lasciarla dov'è. Scelta tua. Possiamo andare avanti allora. Ok. Proseguite sotto il diluvio e ripercorrete finalmente la strada principale di Kainoe. E... facciamo la battuta, la faccio io. E in questo momento servirebbero delle canoe, perché piove tanto. Wow. Ci sta. Comunque era una reazione che io posso capire. Accettabile. Non avete nessuno di voi, l'ho dovuta dire io. Io me la sarei aspettata da Sieg, onestamente. Unico nostro spettatore che dicevo, what is this trash? Comunque. Sorpassate l'edicola. È chiusa al momento e arrivate sotto la pioggia battente davanti alla chiesa. Padre, siamo tornati. Il sacerdote è seduto più o meno nella stessa panca dove si siede a pregare e alza lo sguardo, vi vede entrare tutti e tre, giusto? Magari Mitch si tipo guarda indietro un attimo per vedere se c'è qualcuno, se c'è qualcosa. Sì, arrivo tipo 20 secondi dopo col fiatone. Fa fatica. Però è tutto bene? Pago lo scotto, andiamo avanti. Vedi che Mitch capisce semplicemente... annuisce, fa, prego, entra. Io resto giusto un attimo fuori. Manca l'altro vostro compagno? Doni? Sì, non sappiamo dov'è. È esploso e poi è scappato. Che senso? È esploso. Comunque, avete trovato la ragazza di Adelfo? No, non ancora, siamo stati interrotti. Guardo gli altri. Qualcuno lo spiega. Cose di forza maggiore. Cose di forza maggiore. Cominciamo ad avere dei segreti adesso? No. Non è questione di segreti, è questione che è tutto completamente fuori di testa. Siamo stati chiati da Dio. Un sorriso sul suo volto dice: ah. Perché questo idiota, e Miff indica il dito, ha deciso di dare un manapenny come offerta al tempio. E ovviamente qualche avatar si è incazzato. Ovviamente, tipo, cioè, Miff, she has enough, cioè adesso esplode sempre. Chiude la porta dietro di sé. Ora capisce perché non volevamo descrivere la situazione. Non è perché vogliamo tenere il segreto, ma perché non vogliamo. Siamo esausti. Ho capito. Potete mangiare. Ah sì, ci siamo anche ricercati dall'esercito, quindi è pregato di non aprire la porta. Come sacerdote di Yelos avrei l'obbligo di ospitare i fedeli, però capisco. Grazie. I fedeli, appunto, non i tizi dell'esercito. Non i tizi dell'esercito di Apeira, quelli possono entrare. Il problema sono gli altri. Se uno di voi glielo vuol far notare, sono tipo 7 anni che siete in questa cazzo di chiesa e non avete mai visto un fedele. Vabbè. Nell'ordine credo siano arrivati la psicopatica ninfomane, l'altra psicopatica, un'altra psicopatica, un gruppo di mafiosi, voi, che comunque fittate la descrizione. La psicopatica ninfomane? La tipa che andava dietro a Lieto. La psicopatica è ora loro, la mafia. Beh, vale, ah, questo psicopatica, è prima... ah, no, l'avete in ordine sparso, ti dico la verità. Ah, ok, perfetto. È in ordine sparso. Sì, sì, sì, sì. Ora lo considero una di noi, dai. Sì, però non psicopatica. Era una psicopatica. Ci sta aiutando solo per vocazione o ha anche degli altri motivi? Mi avete aiutato a ritrovare la fede che avevo perduto, quindi immagino che abbiamo un debito nei vostri confronti. Normalmente non lo accetterei, però viste le circostanze mi sento un po' obbligato a richiedere il suo aiuto. Per qualunque cosa. Se dovesse avere bisogno di noi, o parlo per me, se dovesse avere bisogno di me, chieda pure. Sì, sì, beh, ci sta ospitando alla fine per diversi giorni, contando tutti i salti temporali, quindi insomma è il minimo per l'ospitalità, alla fine. Ho riletto in questi giorni le pergamene di Ora. Ho lasciato qua gran parte delle cose che si portava dietro per, credo, studio o preghiera. Ho trovato un rituale antico interessante. È una magia che si chiama vista della vita o qualcosa del genere, e okay, permette di identificare quante persone vive ci sono in un certo raggio. Ok. Me la cavicchio con la teurgia, chiaramente, avendo fatto degli studi del genere da giovane, e ho provato a ricreare questo rituale, quindi... Sì, posso verificare se sta arrivando qualcuno sulla chiesa. Fantastico, magari me lo puoi insegnare? È più una questione di preparazione, non è difficile. Ok. Serve proprio una pergamena e consumare un inchiostro particolare per realizzarlo. Ma okay, è attiva tuttora, cioè proprio ora riesco a vedere tutti. E vi chiedevo dell'altro ragazzo, perché questa magia mi permette di vedere lo stato delle persone. E temo sia morto. Mi scusa? In che senso? Io vedo le loro le forze vitali di tutte le persone come delle fiammelle, diciamo. Se chiudo gli occhi riesco a vedere attraverso gli oggetti fisici. E riuscivo a riconoscere la sua fiammella, era particolare, era diversa dalle altre. E mi era familiare, chiaramente. E ora non la vedo più. Potrebbe anche Ma essere perché solo... fuori dal tuo raggio? Potrebbe anche essere quello, però... Il raggio è molto più ampio di Apeira nella versione di ora. Lo so. E se fosse cambiato? Credo che avrei... diventato qualcosa di diverso. Credo che avrei visto una fiamma sostituirlo. E invece non vedo nulla. Cos'è che ha detto Os? Cioè, se fosse cambiato. Ah. Se fosse diventato qualcosa di diverso. Immagino che qualunque cosa sia successa non sia urgente. Prendetevi il vostro tempo per riposare. Al limite vi darò le coordinate di dove si trovava l'ultima volta. Sì. Sì. Ah, adesso anche quello stronzo ha avuto il coraggio di morire. Incredibile. Il sacerdote si siede su una panca, si stravacca finalmente, e dice: avete già avuto esperienza con le magie per resuscitare la gente? Da quando muore avete 20 ore prima, cioè un giorno prima di... No, non si tratta di quello, è che proprio non ci potevamo permettere una cosa del genere. Ah, oh, desidero così tanto tornare a casa. E... si ricorda la posizione generica l'ultima volta che ha percepito la sua... Ricordo vitalità. Molto precisamente. Nord-est di Apeira, est da qua dove siamo noi adesso. In prossimità dei boschi a nord-est delle colline, fra il fiume Kentro e il suo affluente. Ok. Ma devo entrare su Roll20, sono un bastardo. Est, quindi per... aspettate un attimo. L'hai ordinata con l'alto nord? Sì. Questo. Non sono così qua. Bastardo. Non si sa mai. Sì, da quelle parti lì. Ok. Ok. Mi si incrocia le braccia e fa... Kentro e Kentosi, se vi interessa, sono i nomi dei fiumi che non ci ricorderemo mai. Esatto. Perché? Allora, se non mi dite niente, io assumo che fate una specie di riposo breve, cioè recuperate una parte. Sicuramente. Master, ho una domanda. Non avevo ancora assegnato i punti a Mif, i punti statistica. Puoi farlo... lo speciale scala era già... Era dialettica, giusto? Sì. Non giallo, viola. No, giallo, dialettica, okay, speciale. Perfetto. Ok, grazie. Quindi metto 7 punti, quindi arriviamo a 16, quindi sale di livello. God damn, tutte le tue skill diventano molto più forti. Allora, riposo breve non è previsto da Pentagon Spread. Visto che ci sono le macchine che rigenerano la vita, vi permetto di recuperare la vita massima. E quelli che hanno della fatica tirano un loro dato vita a scelta e recuperano fatica pari al risultato. Tipo solo fatica, non mana. No, solo fatica. E allora niente. Il mio dato vita era, ma sono già dimenticato, che cazzo stai... E adesso bisogna rollare il massimo, oppure io che ho max 38 arrivo a... Sei normale, sei normale, non cambia nulla. Sì, ritorni a 38 full. Okay. Non ritiri niente, perché è tipo una cosa extra, non è un riposo vero. Sì. Fatica non ne ho. Non credo. Non ho abilità che mi diano fatica. E no, non lo prendo per incantato un Macron. Lì ti uccide, quindi in realtà no. Alcuni eventi di gioco ti possono dare fatica, tipo se fallisci un test di sopportare, in genere prendi fatica. Scendi di 3 di fatica e guadagni 3 di vita, perché sale la vita massima, quindi vabbè, te lo segno io. Post. Ok, passa un'ora, un paio d'ore, insomma, quello che volete, e avete mangiato quello che volete. Se volete chiacchierare potete farlo, altrimenti siamo intorno alle 2, alle 3, il cielo si rischiara leggermente, diventa solo nuvoloso, non più un diluvio universale, e dovete dirmi cosa volete fare. Siccome è stato riposo, possiamo distribuire i nostri punticini di merda, vero? Sì. She's perfectly useless for Lieto. Al momento, nei quattro, sì, è letteralmente inutile. Bene. No, direi che... Altro livello di una cassa già possiamo, questo per il tier di quella cassa, insomma, a livello totale. Se volete fare i level up, vi chiedo di farli, cioè è come se l'aveste fatto ora a livello di gameplay, ma li consideriamo fatti, cioè li facciamo effettivamente dopo, fuori sessione, sì, sì. Così non sprechiamo tempo. Niente, Miss pensa ad alta voce e fa, non so, conviene cambiarsi i vestiti, conviene fare qualcosa? Purtroppo non ci farà e tu dovresti cambiare faccia. Infatti, lo stavo per dire anche io. Purtroppo la vita mi ha donato la pelle scura e i capelli chiari. Vabbè, ma la faccia la possiamo cambiare. Nibel, volevo dire. Le ossa rotte cambiano più se la mia faccia. Sacerdote si intromette e dice, abbiamo una gender machine nella chiesa? Miff lo guarda con uno sguardo così vuoto in questo momento, tipo... Mi sembra la soluzione più logica al nostro problema. È arrivato il momento, ragazzi. Odio che non c'è Adoni in questa equazione, ma è arrivato il momento. Se volete celare la vostra identità, forse è il modo migliore. Why you look at me like it's my fault? Cioè, che cazzo ho fatto io? Io sto guardando in cam e basta. Nel momento in cui guardo in cam non riesco a guardare voi. Perfetto. Quello o ti prendiamo un velo molto lungo, I guess. Posso legarmi i capelli, però, insomma. Non funziona così bene. Lo sappiamo entrambi che non funziona più. Perché secondo te cambiare genere perché secondo te cambiare genere la mia faccia rimane sempre la stessa dietro, cioè non è che le cose cambiano, cos'è che sparisce? Magari divento più alta, che cazzo ne so, cioè... No, non penso proprio. E io ho una domanda, e... tipo, le robe tipo la barba deve aspettare che ricrescano? No, è istantaneo. Fa proprio la roba di cambiarti i geni e resettarti. Quindi cambia un bel po', signorina Standout. Lei dovrebbe saperlo. Questo che facciamo a casa mia? In ogni caso, insomma... Ma chi lei? Non sono tutti Standout? O solo il Medikit? Solo il Medikit. Ok, allora... Mi scuso. Vabbè, this is on the house. E ti dà tipo un Miff lo stringe e fa quanto vorrei sapere una spell in questo momento come quelle che castani per soltanto per farti il culo. Te lo dici stringendo i denti. Sbatte sulla schiena e esce tipo fuori. Ah, ti serviranno anche degli altri vestiti. Credo che la macchina se ne occupi automaticamente. Gender band istantaneo. Sì, cioè... Mi piace che la macchina fa entrambe le cose. Cioè, la macchina... ti cambi i geni e poi tipo, ma sai cosa? Ti faccio anche i vestiti. Lo potete fare anche voi. Esatto. Non potete farlo anche voi, scusate. Visto che siamo tutti ricercati, bisogna farlo tutti, no? Mi giro e guardo tipo Nibel. Mi rifiuto categoricamente. Anch'io. Anzi, la morte. Grazie, Nibel. Anche io. Finché non c'è bisogno che io cambi chi sono fino ad un certo punto, insomma. Ma è necessario. this is literally the fucking moment in cui è necessario. Perché solo io e non voi, scusami? Perché noi siamo gli unici, ci hanno visto in faccia a noi, letteralmente. Maria! Maria sì, ma che cazzo ne sa? Ci vabbè, può trovare, è arrivata fino alla croce, secondo te? Hai ragione, hai ragione. Grazie Leto, in un matrimonio forse vivresti abbastanza a lungo. Andiamo insieme. Questa è Sara che ride però. Va bene. Tutti buoni, culo degli altri. Andiamo avanti. Si alza. Dov'è questa macchina? Grazie. Prende Lieto per il colletto e lo tira. No, sarei tu il primo. Va bene, dammi un attimo. E tipo, si toglie il suo vestito, la spilla, gli appoggia e rimane tipo in mutande. Cioè, capisco. Cazzo, i vestiti non li vuoi rovinare? Cioè, non so che succede, non l'ho mai usata. Questa macchina di merda. Hai un batticuore. Prego. Che non puoi controllare. Clic clac. Basta una moneta per entrambi. Wow! È quella che hai appena recuperato, tra l'altro, quindi non te la segnare se non l'avevi segnata. E hai una sensazione di un calore interno. Certo. Quella che è un'altra moneta, non me la un'altra segno. Un'altra moneta, okay, va benissimo. Okay. Sensazione di calore interno e un solletico in alcune parti del corpo. Dura veramente poco la trasformazione, cioè non è un puff istantaneo, è come... ti abbassi, cioè perdi un certo numero di centimetri. E più sensi? Non farò finta di non aver sentito. E noti che da donna Lieto assomiglia molto a sua madre. Un paio di tonalità più scura, però il seno è quello. Vabbè. Basta. Wow. Fine del mio commento. Wow. E boh, cioè, effettivamente non lo riconosce, cioè non la riconosceresti. Non mi ha creato dei vestiti, immagino, siccome li ha tolti i precedenti. Ha cambiato la forma delle tue mutande. Biff che ti guarda come per dire... Vabbè, almeno uno dei due ce n'è ancora. Io vado a vestirmi. Biff non è ancora cambiata per adesso. Biff va al patibolo, adesso è il suo turno. Non ho capito. Sta andando al patibolo e è il suo turno. Come ho descritto prima, la sensazione è pressoché la stessa, cioè senti un batticuore, un calore e prurito solletico in parti del corpo varie. Flat as a chest. E cresci di tantissimi centimetri in realtà. Cioè diventi proprio molto alto da uomo. I tuoi vestiti che non hai tolto si adeguano alle tue proporzioni. Ma rimangono dello stesso colore e la maggior parte dei dettagli rimangono invariati. Ok. La prima cosa che fa è tipo correre verso Nibel, fare così. No, ancora più alto Nibel. Sì, ma... ma è così che ci si sente. È incredibile. Un po' euforico. Lo so, per me è la normalità. È incredibile. Ma quindi, cioè, quindi tu ci vedi ancora più. Sì. Wow. Vedi, stava a mezzo monetina. Ti metto due dita sulla fronte e ti spingo indietro. Vabbè. Lieto si avvicina tipo al pete. Ancora senza vestiti, perché non li ha ancora messi. Gli appoggia tipo la mano sulla spalla. Lui ti guarda dritto negli occhi proprio. Siete altri uguali ora. Insomma, padre. c'ha qualcosa di più adeguato per questa situazione. Credo ci siano dei vestiti di ricambio di ora che ha lasciato qua. Nella sua stanza di sopra. Ti vesti come ora. Mi pare di capire. Non un buon segno. Ecco, questa era un'altra cosa che Sirio non doveva sentire. Secondo me era più divertente. Vabbè. E... sentita. No, sei andato a suicidare allegedly, quindi non ti posso sentire. Siete setappati, cioè, ditemi cosa volete fare. Andiamo, siamo pronti. Indistinguibili dagli originali. Partenici bene. Quanto dura questa cosa? E sentite che ha la voce un pochino più bassa e lei si jumpscare. Tipo, oh mio Dio, no, non ce la posso fare. Finché non torni non lo fai di nuovo. E se non lo rifai mai più, immagino. Sì. Il dietro guarda verso il basso. Vabbè, ce n'è anche dei lati positivi. Mif che guarda verso il basso e fa I guess. Comunque è Motumbo, secondo me, cioè, i geni sono quelli probabilmente. Esatto, il problema è che se ritorna a Trice comunque, cioè, il suo valore equivale a zero in qualità di uomo. Sì, basta non tornare a casa. Esatto. Ok. Beh, che dire. Chissà, non so, magari adesso se do un pugno a qualcuno faccio male. Cambiano le statistiche per questa cosa. No. Okay. Cioè, cambia il peso e l'altezza. Siamo in D&D 2. D&D 2, perché nel 3 già non c'era più sta cosa. Vero. No, lieto, non... sì, lieto. No, Nibel, non vorrei farti del male, sai. Non vorrei farmi del male. Non vorrei farmi del male. Frase giusta. Posso dire un coppino a Mif? Mi sa che devi saltare. Sì, da basket. Dunk. Fai tu adesso, nano gnomo da giardino. Vabbè, comunque, cioè, 1,70 m lo è. Mi accendo la pipa, faccio uno sbuffo di cui c'è tossire. Quindi adesso, qual è il vostro nome? Lieto. Non credo che vada sia una buona idea. Lieta. Allieta la puoi chiamare. Sì, dai, ti chiameremo Allieta. Perché allieti gli animi. Questo lo mando dopo. Scusa. A Teglia. Teglia. Perché devi sapere. La Teglia, sì. È un nome, un programma, quello che dovrà fare per un po' nella sua vita. Non lo so, qualcosa. Va bene, se proprio dobbiamo prendere un nome, Linnea. Ben capita io e te. La reference. E bene. Anche Cadorna. E... oh, siete in viaggio, quindi? Non ho capito se siete già partiti. Sì, ci stiamo avviando, immagino. Siamo tutti pronti per questa grande avventura. Mif che sta pensando ad un nome, no? Tipo... il sacerdote vi dà un'indicazione molto precisa su una mappa di dove ha perso il contatto. E se avete una mappa o qualcosa del genere, sapete il punto esatto e potete più o meno organizzarvi. Fate il primo passaggio di questa avventura tra i vicoli di Kainoe Est. Tra l'altro passate vicino alla zona, se vi ricordate, dove avete comprato la droga la prima volta. Per quelle che c'erano. Ottimo. Che, cioè, ha smesso di piovere, quindi in realtà c'è qualche gente intorno, e soprattutto ci sono dei clienti che potete ignorare. Io vi sto dicendo quello che c'è. Okay, okay. Saranno ignorati. Oltrepassate le ultime case, arrivate ai campi, che in questo momento sono completamente inondati. Sono più che altro i campi per le piante da dare al bestiame, non sono robe da mangiare per gli esseri umani. E questa cosa continua per quasi un chilometro fino al fiume. durante tutto questo viaggio non vedete un cane di nessuno, ogni tanto passa un uccello al limite in aria. Ok. E... beh. Se fottute piantagioni di soia. Camminando, fa tipo, guarda Mif, fa, ma questa cosa è tipo, cioè, come la fermi? Mettendo qualcosa che sorregga, o di più stretto. Prende tipo il coltello e cerca di infilare. Tipo... No, non hai capito. Dice tipo o utilizzi magico. Delle fasce, o utilizzi Lieto un corsetto morbido. Lieto ha scopato in vita sua, lo sa cos'è un rettiscino. Bibi! Cioè... No, al tempo erano i corsetti, ma quelli morbidi, quelli che appunto ti sorreggevano, appunto, mi fa... le alternative sono un corsetto morbido oppure delle fasce. Ah, ecco così erano quelle robe. Messe in una certa maniera io. Aspetta, ma Mifa non si era tolta i vestiti? Di conseguenza aveva le fasce. Cioè, lei utilizza le fasce. Esplose. Esatto. Cazzo, non ci ho pensato. Sono molto lunghe, però c'ha comunque una fascia qua. Generalmente per il davanzale di Lieto. Cosa? Cioè, il problema è quali vestiti ti sono rimasti. Ce l'avevi addosso, i vestiti sono stati convertiti in vestiti adatti alla tua biologia. Ah, sono convertiti. Okay. Sì, erano una fascia, sono diventati una camicia. Troppo conveniente. E le bretelle, non lo so. Infatti. Conta che l'idea è che c'è gente che ha designed le macchine per farlo. No, non lo so. Che bella musica. In realtà siete anche belli allegri. Ci sta. Quindi quando arrivate al fiume, e ci arrivate tra queste chiacchiere leggere, vi accorgete che non c'è un ponte. Ok. C'è un ponte qua? Utilizziamo Lieto come canotto? Il ponte era un chilometro più a sud e non portava nella direzione dove dovete andare, portava verso sud-est. Quanto è distante l'altra sponda? Non tantissimo, in questo punto il fiume non è particolarmente largo, però è in piena, quindi sono una decina di metri più o meno. Fondo quanto? Non vedi il fondo perché è quasi tutto fango. Infatti. Io non mentirò, ho delle difficoltà a nuotare. E non le avevo. E con questo corpo sarà un po' diversa la cosa, immagino. È più basso, più corto, è diverso, che cazzo vuoi? Sì, cioè, semplicemente più basso. Ed è vero, è letteralmente un altro genere. Quanto pesi, Lieto? Pesavo. E... dalla scheda di Lieto quant'era? Boh. 95 kg era, immagino che siano ridotti. Ma sì, siamo sui 70. 70? 75? Ok. Ehi, Lieto pesa quanto me adesso. Tiro su da sotto la shell, vedo un attimo. Forse 6 o 7 metri riusciamo a toglierli. Ce la fai ad arrivare per il resto? Sì, probabilmente ce la faccio. Mi appallottolo tipo e aspetto che Nibel mi lanci. Tanto ormai siamo... tipo l'uovo. Tanto ormai siamo... devo cambiare canzone, oddio! Perché se no questa si mette a urlare. Okay. Prendo Lieto da tipo dalla parte dietro dei pantaloni e dalla collottola qua dietro della maglia. Tipo faccio uno, due... e poi lo lancio dall'altra parte della sponda. Mi rollo un di 10. Sì. Volentieri. Cos'è? Sollevare. Okay. Quanto bright il tuo schermo, Sirio. Madonna mia! Mi sono flashbangato! L'ho visto da casa mia. 13. No, arriva praticamente dall'altra sponda per la seconda volta. Okay. Mip? Penso che adesso... mi saluto da peserò un po' di più. Un po' contuso. Esatto. Soprattutto nella parte bassa del corpo. Wow. Prendi da tuo padre adesso. Si è anche spostato il baricentro, letteralmente fatto anche questo, cioè è un dato di fatto, cioè non è che Posso provare. Tipo, vedi che si sporge verso il fiume, fa... Siamo sopravvissuti a... A Diru, vuoi vedere che non riusciamo a passare un fiume? Hai una corda? Prendo la corda che ho. E infatti... Effettivamente la lancio a lieto. Esatto, potevi lanciare me con la corda, effettivamente. Sì, sì. Ci sta. Vabbè, ti lancio la corda. Lanciala a Mif nel caso non dovesse arrivare dall'altra parte, ok? No, no, aspetta, tieni un lato tu della corda. Mi lanci l'altro capo. 12 metri di corda. E Mif può fare letteralmente. Allora sì, puoi. Ok. Ti usare la corda letteralmente per attraversare il fiume. La lingua da un lato. È che in... è in piena, cioè c'è la pioggia, c'è il vento, quindi potrebbe essere difficile anche con la corda. Nonostante sia però più grande... Però è comunque un aiuto. Nonostante sia più grande, guardo le braccia, tipo... come sono. Non credo che resisterebbe alla forza dell'acqua. Vabbè, legagliela alla vita, lanciala, e io la tiro da sto lato. Sì, si può fare. Okay. La lego. L'altro lato, l'altro lato. Ok, ok. Ci mettete un po', ma riuscite nel vostro intento. Cioè, vi prendete del tempo, sprecate quello, non risorse. Lieto. La mia vita è nelle tue mani, non farmi ci pentire. Io tornerò indietro se qualcosa fa storto, ok? Capisci? Okay. Tieni quella corda come se la tua vita dipendesse da essa, perché se io affogo, tu affogherai con me. Senti, questa frase è tipo... Ah! Do you actually do that? No. Ancora non l'ho lanciato, ancora non l'ho lanciato. No. Ok, posso entrare? Suicidi. Posso entrare? Tu che sei dall'altra parte, no? Vado? Andiamo, vieni. Ok. Tiro su Mif. Come la sento, come peso? Cerca di raccogliersi, no? Okay. Però, saranno sui 80 kg ormai, sì. Solidi. Infatti, sarà un po' più difficile, ma dovrei farcela. Okay, uno sul dado. Due. Via, la lancio. Stai facendo il roll, vero? Sollevare, sì. Sì. Non serviva neanche la corda. Esatto, Mif vola. Siete due su tre dall'altro lato, manca Nibel. Mi passi il metà della corda? Si slega, esatto. Vai. La prendo, me la leggo tipo dove ho la cintura, metto la pipa in bocca e incomincio a camminare nell'acqua. È una brezzolina la corrente del fiume in questo momento, quindi riesce a farlo senza troppi problemi. Okay. Siete arrivati sono dall'altro fuori. Lato. Il tabacco è asciutto. Sbuffo. Possiamo andare. No, allora, Nibel, non so se sei mai stato in questa zona, perché sono i boschi a nord e tu vivi da tutt'altra parte, quindi almeno che non sei andato a caccia o per funghi in vita tua, questa zona non l'hai mai... Non penso, dipende che strada attraversavo per andare a nord verso le miniere. Tutt'altra. Cioè questa qua è proprio... dal centro, sì. Al centro della città. E indicami la zona nella mappa. Siete letteralmente qua, ora, mentre la strada che facevi tu, partendo più o meno da qui, perché era da lì che stavi, era di arrivare... Passare dentro, ok. Sì, così. O addirittura, anticamente c'era questa strada, però da fare col cavallo. Ok, sì, l'ho vista soltanto allora di lato, probabilmente. Sì. E tra l'altro c'è una montagna qua, e la montagna si vede bene da una collina alta, diciamo. La collina alta si vede bene da lontano, però non è così interessante. Chiaro. Ok, quindi tutti e tre non avete la più pallida idea di dove cazzo siete. Era qui che volevo arrivare. La boscaglia è tipica macchia mediterranea, quindi alberi un po' sempreverdi, un po' robe generiche. Tanti arbusti, tante... abbastanza fitta. Vedete che con la piena dell'acqua che c'è stata e tutto il resto si sono formati dei rigagnoli di acqua e fango che scendevano a valle, e col fatto che si è attenuata la pioggia si stanno asciugando, formando dei veri e propri percorsi di scavati nel fango. Ditemi. Proviamo a trovare il punto preciso. Prima vediamo meglio, eh. Qua non sono mai stato. Cosa dice la mappa? Mi fa apre e punta il dito sul punto in cui gli ha indicato il vescovo. Fa: spero sia orientata nel punto giusto. Vabbè, dovremmo capirlo col lato del fiume. Sì, più o meno. Giusto, vedete che la gira, no? E va, ok, è qua. Cosa ci faceva in un bosco? Ah, non ho la minima idea. Magari ha visto qualcosa. Ovvero che non c'è qualcosa qui in zona. O magari si è suicidato veramente, chi lo sa. Il bot ha deciso di suicidarsi. Ora lo rimetto. Controllate gli alberi, mi raccomando. Di chiamare il bot ora. Fa ridere sta frase. Basta, dobbiamo chiamarlo ora. No. Ok. È un bosco normale. Non ci sono animali in giro. Sono tutti nascosti, come capita spesso dopo la pioggia. Quindi è molto silenzioso. È abbastanza eerie, even. Ogni tanto da delle foglie casca un fiotto d'acqua, perché troppo cariche o un ramo cede. E quindi sentite un rumore, però quando vi girate vedete che è questa acqua che cade, non c'è nient'altro. E camminate per quasi un quarto d'ora nella boscaglia, quando vedete due strade. Una che sale verso sinistra e va in cima alla collina. Vedete che in cima alla collina c'è uno spiazzo, libero dagli alberi, però siete troppo lontani per vedere di preciso cosa c'è. Mentre se andate a destra, continuate più o meno nella stessa altitudine, diciamo, in cui siete adesso. E c'è un grande albero. Spoglio. È autunno, quindi non ha foglie. E vi colpisce perché è molto più alto, scusa, molto più alto degli altri alberi che ci avete intorno. E semplicemente non c'ha chiome vicine. Essendo così grande, fa ombra. Se vi interessa potete fare un roll sia per il clearing in alto sia per l'albero, se vi interessa. Senza andarci, dici? Sì, da qua. Per l'albero chiaramente è natura, per il clearing è investigare. Allora, io faccio il clearing e tiri un altro. Io faccio natura. Hai 14 di base, sì. Io ci do un'occhiata su cosa di più. Più 3, 17. Cos'è da investigare? No. 17. Allora, vuoi farlo anche tu, Miff? Sì, faccio natura anche io. Perché già così... 7 più 3, 10. 10, 11. Più o meno siete nello stesso cluster. Sul clearing... non so quanto ne sappia Lieto di geologia e cose del genere. Fatto sta che la cima non è così in alto da giustificare la completa assenza di alberi, cioè dovrebbe essere un migliaio di metri in più. Le motivazioni principali che ti vengono in mente per cui sia spoglio sono che qualcuno sia andato lì ad abbattere gli alberi, oppure il terreno sia di un materiale particolare per cui non crescono, tipo se fosse roccia viva non crescono. Okay. Quindi in ogni caso è un posto strano. Aspettiamo Sara a dire l'altra parte, che io mi prendo la focaccia. Arrivo. Prenditi la focaccia, è il tuo momento. Esatto. Incredibilmente sono riuscito a concentrarmi per tutta la sessione nonostante non ci sia, assurdo. Mi sei sembrato un po' disassociato a tratti, ma... Sì, sì, però oh, ci sono sul pezzo, incredibilmente. No, c'è stato un momento in cui ho aperto un reel di Instagram e c'era un cervo e poi spara flashate immagini close-up di tarantole e dei ragni. Ero lì... Ma perché? Tra parentesi, una delle mie paure più grandi sono specificatamente i close-up delle facce degli insetti e anche degli arachnidi. Ok. Per quanto questa cosa sia migliorata, io ci sono rimasto... Cioè, era un cervo carinissimo e pam. La spiegazione del clearing l'hai persa, ma te la farà lieto in un secondo momento. Sì, sì, scusate, veramente, scusate. Di W. È un clearing senza... È l'albero. Che non ci sono gli alberi. Sì, avevo sentito che lì. L'albero, dal vostro 10 e 11, è riuscito a capire che si tratta di un tasso. Quanti di voi sanno come si chiama il tasso in inglese? Aspetta. C'ho il libro. No, vabbè, non mostrare guardare. Sì, tasso. Prego, Adone. Devo dirlo io? Sì, sì. Si chiama U, scritto con Y e W. Ora, se qualcuno magari si ricorda. Yu-Yu? Brava. Sorvoliamo. Tuttavia, è più grande di come sono questi alberi normalmente, cioè è tipo una dozzina di metri, mentre, se non sbaglio, i tassi arrivano a 6 metri quando sono veramente grandi. Vi dico, come proporzione, è circa il doppio di un albero normale. Okay. Ed è secco, morto. Non marcio, però. Anche questo è strano, cioè in genere un albero se muore marcisce, invece è come se fosse stato essiccato in qualche modo. E anche il fatto che non abbia alberi intorno non è normale per questo tipo di alberi. Dove segna di andare il punto dato da... Non si capisce bene. Ah, ok, cioè non si capisce se dobbiamo salire o dobbiamo... È circa in questa zona qua. Ok, mi chiude la mappa e fa: volete che prima saliamo così facciamo la faticaccia della salita e poi è tutto in discesa? Mi sembra una sei buona buttato, idea, sei buttato host. A questo punto almeno abbiamo la vista dall'alto. Infatti. Ma giusto per fare un... non so, tipo la cosa più ovvia di tutte, vedo a due da qualche parte. Da qua no. Tracce di qualcuno? Questo è investigare e dovete farmi tutti investigare se volete fare questo. Questo lo faccio. Investighiamo. Ehi, che cazzo? Oh, mi sono perso. Ecco. 10. Grazie. Scusa, me arriva. Poco. 7. Cosa state dicendo che mi hanno interrotto? Investigare. Ok. Investighiamo. Investigare è... L'intelligenza, mente. Mente. Okay. Nove. Il più alto è 8? 9? Più alto è 9? Il più alto è il mio, 10. Ok. No, 10 ci siamo. Tracce di vita in azione non ce ne sono. Ci sono dei segni su degli alberi, apparentemente a caso, cioè non vedi nessun motivo per cui quegli alberi ce l'hanno, in cui ad altezza uomo sono state strappate via o comunque rotte in qualche modo le cortecce e si vede l'albero vivo. Questa cosa è stata fatta ad est. Voi state arrivando da ovest, se vi interessa. Quindi devi girare intorno all'albero per vederlo. Però è una cosa che noti. Noti la corteccia per terra, noti questi tracci. Non ci sono impronte per terra, anche perché c'è stato la piena torrenziale, quindi le avrebbe cancellate. E altre cose di tracce umane? Non mi viene in mente nient'altro che puoi notare. Questo albero senza corteccia si ripete? Cioè, noto che è un segno che mi porta da qualche parte o è semplicemente un cavo in tot alberi? Non capisci quale sia la direzione, però, di questa traccia. Okay. In ogni caso, o viene dall'alto o viene dall'albero grande che state vedendo. Esatto. Mif, appunto, continua qua. Ci sono delle tracce, io non capisco da che parte vengano o siano direzionate, quindi sì, suggerirei di alzarci di quota. Sono d'accordo. Scalate l'ultimo pezzo della alta collina e superate gli alberi, arrivando al clearing. Il clearing, come vi dicevo, è tipo un prato tondo. E al centro di questo clearing è sterrato, cioè come se avessero strappato di recente l'erba. E ci sono delle macchie di sangue rapprese, che in qualche modo non sono state portate via dalla pioggia torrenziale. Ma soprattutto ci sono delle robe gelatinose scure, non riuscite a capire cosa sono. Sembrano dei serpenti decapitati, però senza squame, sono gelatinosi. Okay. E ce ne sono 5 o 6 sparsi intorno alla zona di terriccio. Non vi sembra di vedere nient'altro. Lieto va a vedere i serpenti gelatinosi più da vicino. È difficile dire cosa siano. Cioè, la cosa più simile che forse hai mai visto sono quei cetacei morti da tempo che si gonfiano e diventano bloated. Però è nero, mentre quelli diventano generalmente blu-viola. Mannaggia te, Os. posso vedere solo quelli. Però neri. Ok. Prendo uno stick, tipo. Quando lo premi si sembra fare una specie di resistenza, ma se insisti si buca e il fluido nero inizia a uscire fuori ed è molto viscoso e gelatinoso e si disperde. Okay. Emana un odore nauseabondo. Si sgonfia o rimane rigido? E ci mette un po', è molto lento, però sotto l'effetto della gravità, non essendo più pieno di questo liquido, si sgonfia. Cosa sono sti cosi? Non ne ho la minima idea. Animali? Emanano magia? Vuoi fare un roll di arcano? Verrebbe? Sì. Prego. Ti prego, vedo fammi 10. Animali tipo, ho fatto, non so, 10. Scaglie. Allora, non ci sono tracce animali, non c'è niente di riconoscibile come animale o umano o altre cose. Hai fatto 10 perché hai più 8? Sì. Hai già avuto questa sensazione, non riesci a ricordarti dove. Ok. Ma non c'è niente intorno a te. Ok, aspetta. Devi parlare anche te, Ika. Sempre arcano. Dubito di riuscire a fare... Più di 10. Infatti. Ho fatto meno di 10. Sei questa volta. Ho fatto 5, però... Wow. È andata. Vermigomosigobr. Perché sei diventato donna. Vabbè. Diventato no, più stupido. That's crazy. Vabbè, mi piace. No. È possibile. Comunque, Ma ti vedi Miff come rolla bene adesso? Comunque non ci sono tracce di quello che stai cercando qua. Che cazzo sta facendo Ed? Perché? Infatti, l'ultimo detto che il mini di Natale. Giù, Miff cerca di vedere se da dove sono loro adesso si riesce a vedere il tasso. Non si riesce, si riesce a vedere la chioma, cioè proprio la parte più in alto che è secca, ma non si vede meglio di prima in nessun modo. Anche il percorso per arrivarci è tutt'altro che dritto, cioè devi fare un sacco di detour intorno agli alberi. Io suggerirei di andare giù, a meno che non volete che io casti Horoscope per avere più informazioni, però non... Dite. Se lo vuoi fare, ma siamo tutti senza mana, beh? Perché non abbiamo ripeso. Ho due di mana, posso castare Horoscope o Horoscope. E poi c'è la vita. Vuoi fare. E poi c'è la vita, però non è l'ideale. No, è... Come preferite voi. Miff guarda Nibel. Tu cosa pensi? Meglio continuare a cercare? Non è quello l'obiettivo alla fine, forse è meglio cercare Dune. Vediamo se c'è qualcun altro, qualcos'altro in zona prima. E poi sfruttiamo eventualmente il resto delle capacità che abbiamo. Io posso fare poco o niente in questa circostanza. Mi fanuisce, insomma, si avvia verso la discesa, no? E fa, comunque penso di sapere cos'è, qual è la magia che ha fatto, il rituale che ha fatto il vescovo. Penso di aver avuto un'esperienza simile in Gulak, solo con un intruglio particolare, però da come l'ha descritta sembra la stessa cosa, è interessante. Cool. Scendete e Miff più degli altri si accorge della presenza di questi tronchi danneggiati che non seguono la strada dritta per andare all'albero, fanno un percorso super serpentino, stranissimo, tortuosissimo, ma voi andate dritti, immagino, cioè vaffanculo il percorso che hanno fatto quegli alberi. Certo. Quando arrivate all'albero, al tasso gigante, notate che tutto intorno al tasso c'è del fango, come se ci fosse un fossato molto largo intorno alle sue radici, ed è completamente coperto di fango, abbastanza rappreso, abbastanza denso, e dal fango sembra emergere una figura. Se non l'aveste vista poco prima, non avreste pensato subito a un essere umano, ma visto che un paio d'ore fa avete visto un cristiano immerso nel fango, vi ricorda quella figura. Miff tipo... Cioè, fa così con la mano come per dire state fermi, inizia a castare Horoscope. Fa, sia mai che magari incontriamo qualcuno di... avverso a noi. Come funziona Horoscope sui morti? Un bersaglio. C'è scritto un bersaglio, non specifica se vivo o morto. Un bersaglio? Bello. Sì, per controllare il micro... di bersaglio. Per controllare il microcosmo mentale del bersaglio. Quali magie conosce, classi possiede e suoi tratti fondamentali. Microcosmo non c'è perché è morto. Magie conosce nessuna perché è morto. Classi possiede zero perché è morto. I suoi tratti fondamentali, nessuno perché è morto. È morto come tratto fondamentale. Sì, non riesce a castare Horoscope. Me la tengo allora come sì, caster? Sì. No, cerchi di castarla, non funziona, non hai fatto nulla. Quindi non ho speso neanche il mana? No. Cioè, l'ho speso il mana? No. Ok. Ottimo. Ok, è morto. Allora Miff va molto tranquillamente... Cerca di vedere il corpo. Ah, se sei tu, Adone, veramente mi metto a ridere. Rapido cambio di scena. Oh, mi sa che dovevo interromperlo e poi farlo ripartire. Sì, ahimè. Insomma. Lo sai cosa hai appena fatto? Lo lo so io. Sai esattamente dove sei. Qualunque cosa tu avessi davanti sta svanendo. E in un modo raccapricciante. Riesci a vedere i suoi tessuti decomporsi a una velocità assurda, in tempo reale. Proprio li vedi marcire, come in quei video timelapse delle cose che marciscono. Come se fosse avvolto dalla muffa e poi i tessuti venissero consumati. E man mano sparisce. Al suo posto rimane il cielo notturno, il cielo stellato, pulito, eterno. Perdi la cognizione del tempo, l'avevi già persa prima. Prima di quella avevi perso la cognizione dello spazio. E l'unica cosa di cui sei sicuro è che i tuoi piedi appoggiano su una superficie uneven, quella su cui eri originariamente, non dico nient'altro. E senti una mano toccarti. Ok. E provo a togliere la... ammetto... C'è la mano o no, è solo la sensazione? È solo la sensazione. Ok, a questo punto faccio come per afferrare la mano e la tolgo. Mif, quello che vedi è che il cadavere, perché è un cadavere, è morto, hai castato Horoscope, è sicuramente morto, ti afferra la mano e la toglie. Mif letteralmente sgrana gli occhi, ma nello stesso millisecondo in cui sgrana gli occhi fa un salto come i gatti quando si spaventano e tira un urlo fortissimo, fa... si fa, cade per terra, poi dietro, cioè tipo rotola una... non mi ha toccato, mi ha toccato. Ottimo, va bene. Posso la scena vale tutto faithful. Giusta, secondo sì, me. Sì, cazzo. Cioè. E... perché poi fa... un po' Scooby-Doo sta io. Dietro si avvicina sempre col solito bastoncino di prima, tipo... poc, poc, poc. Non succede nulla. Tra l'altro voi non l'avete visto, cioè solo Mif l'ha vista succedere, l'ha sentita succedere la cosa del braccio, voi continuate a vedere il cadavere. Okay. Tutto a posto Mif, che è successo? Amo, sei così alta di tono che non ti prende il microfono? Sì sì, ma infatti sto pianificando apposta, infatti fa, cioè, proprio è nella mio Dio, mi sta girando la testa per dirti quanto respira forte. Mi ha preso la era morto, ho castato l'incantesimo, è morto, mi ha preso, si siede, si basta in casa. Facci tu a vedere chi cazzo è, ma vai, fammi prendere la mano di nuovo dietro, ma sì, e dietro va lì e tipo col ditino tocca tipo il cadavere. Stavolta hai scacciato la mano, Adone, e la sensazione che senti è un tepore molto forte, quasi familiare, quasi come se fosse qualcuno che conosci bene. E a questo punto Adone, sentendo questo tepore familiare e avendo fatto una cosa prima e avendo avuto una sensazione ancora tanto prima, si fa l'idea sbagliata. E a questo punto cerca tipo di abbracciare questo tepore. Il cadavere nel fango si alza di scatto e ti abbraccia. Lieto tipo si frizza. Vi giro e tipo guardo loro, lo vedete anche voi? E indico tipo il cadavere. Tipo che è dietro la gamba di Needle, solo che non è più piccola che una volta, non si racconte bene. Ma... lo hai visto? Ok, mi credi adesso? Tipo, tipo e credo... prende l'ascia di Needle, che cazzo ha il martello, il piccone, qualsiasi cosa. Io prendo tipo il dietro dai pantaloni e lo strattono via dal corpo che c'è lì. Ehi, non si tocca. Senti che è come se quella presenza familiare stessero cercando di portartela via. Sì, che la piano stia portando via. A questo punto Adone parla e dice... punto dice no, non te ne andrai questa volta, e rincorre questo tempore ancora, proprio lo prende e lo ferma. Qua la narro dal punto di vista di tutti voi, anzi attraversi il velo che copriva il cielo, come la sensazione è come se ti stessero partorendo, cioè una cosa violenta, una cosa in cui tu eri racchiuso in un punto e stai cercando di uscire con forza, contro tutto. Dall'altra parte vedete che il fango che era tutto intorno alla persona inizia a sciogliersi, a liquefarsi, e forse a bruciare via, il termine giusto. Cioè, proprio come se fossero delle fiamme, però non c'è il fuoco. Però come se venisse bruciato. E da sotto a questa cosa emerge Adone, che dice la frase che ha appena detto, mentre cerca di riprendersi lieta. È già pronta con la picconata. E lieto gli spara. Cosa vuoi fare in questa scena? Cioè, nel senso... Poi mi metto di mezzo, tipo... Wow, aspetta, è Adone quello? Tu hai la pistola in mano, lieto? Sì, cioè, gli devi sparare, cioè, tipo... Mif ha un picco... Anzi, no, lo descrivo dal punto di vista di Adone, fa più ridere. Adone, riprendi... visione di quello che è il mondo, e davanti a te c'è una donna che non conosci, vestita come Ora, però con i capelli scuri, cioè gli stessi cazzo di vestiti di Ora, non è che è vestita simile, ha i vestiti di Ora ma i capelli scuri. A fianco c'è un ragazzo scuro di pelle, con i capelli ricci e i vestiti dello stesso colore di Mif, e poi c'è gli Nibel, stessi vestiti di Mif aggiustati per essere della sua taglia. E poi c'è Mibel. Beh, solito chill guy. Adone a questo punto si alza in piedi e fa dei passi all'indietro. Toc, colpisci l'albero col culo, okay. Con la schiena. Voi chi siete? Come cazzo fai ad essere vivo se un attimo prima eri morto? Porca di quella. Cioè, adesso inizia. E gli sparo tipo un ginocchio. Io guardo Mif e dico... Fai un controllo. È ancora vivo? Effettivamente. Mif si libera una mano, no? E cazzo horoscope. Domanda. Wow. Adore, starei fermo per 60 secondi a farti castare horoscope nel completo silenzio? Oppure no? Io l'ho detto, ovviamente. Io ho chiesto ad alta voce, tipo, non è che io l'ho sussurrato. Okay. No, ma infatti Adone dice, fermi, voi chi siete? Io sono dietro. Oggi è giornata di spiegazioni. Infatti, però tu ci devi delle spiegazioni, eri morto! Ho cattato horoscope, eri morto! Ero. Oggi è una bruttissima giornata, bisogna calmarmi. Sono lieto e Mif hanno usato la macchina per cambiare genere. Ok. Senso. Puoi farti castare horoscope gentilmente? D'accordo. Ti senti vivo? Respiri? Però aspetta, mi sa che Pjanic. Come funziona horoscope? Gli devo dire le tue classi, le tue spell e i tuoi tratti fondamentali. Ok, ok. Sara, ci sei? O hai crashato? No, è perfettamente immobile. Ah no, ha crashato, mi sa. Crashato. Sì. Non ci credo. Bellissima, tra l'altro. Poi faccio lo screenshot. Sto aspettando il cast time di Horoscope, te lo dico io. Scusate, ma io vi sentivo. Io riuscivo a fare tutto. A volte non sentivamo te. Vede. Non Sì, ora okay. Sì. Okay. Ottimo, ci sono. Pensavo mi stesse trollando. Prima. Quindi vuoi fare veramente horoscope? Sì, faccio veramente horoscope. Okay. Perdi uno di prendi uno di mana, scusa, e guadagni uno a teurgia. E dopo un minuto, durante il quale c'è un silenzio imbarazzantissimo, cioè proprio... Ah, mamma. Sì, sì, sì. Soft brut. Non me lo consiglio. Noti che... somiglia ad Adore. Hai... c'è un po' di blur. Horoscope in genere ti dà il microcosmo delle sue spell, cioè la lista delle sue spell. E effettivamente riesce a vedere i glifi che tu sai interpretare come le magie che conosceva, Yu-Yu, Summon Familiar, eccetera. E però ce ne sono altri di glifi del genere. Sono confusi, sbavati, non riesce a capire cosa sono. E non riesce a capire quanti sono. Riguardo al livello, è... vabbè. Meta è un livello sopra l'ultima volta che l'hai visto. In character te lo posso dire come sembra che la potenza, l'esperienza di Adone sia aumentata. Ok. Ultimo tratto che ti riesco a dire. Ha due anime. Vedete che Mif, no, già prima era spaventata, adesso è logora e fa... che cazzo hai fatto? Cioè, proprio la vedi, è vuota e letteralmente c'è. Che cazzo hai fatto? E tiene il piccone. Quindi gli devo sparare, non gli devo sparare. No, per favore, non spararmi. Ho già incontrato la morte e non vorrei farlo per la seconda volta. Però sei l'unico qua. Ti ho scritto una cosa su Telegram. Non devi dirlo, ma se vuoi, cioè. Adone subplot dice, a questo punto Adone dice, no no, nel senso, ho ucciso la morte, o almeno non era la vera morte quella, era un tizio. Ancora meno senso di prima. Dunque... meme che vi ho mandato prima, sì, che ce ne fate voi, di la gender machine, chi si è Adone? Ok. Yeah, I'm gonna kill death, why not? E Adone appunto si schiarisce con la ref. È quello che sto anch'io. E dice, beh, credo che abbiamo tutti quanti molte cose da dirci, immagino. E... voi state bene? Cosa è successo in città? Abbiamo combattuto. L'avatar di Diru ti ha fatto il culo. Ha ucciso Lieto, mentre tu non c'eri. Ecco cos'era che ho visto. Pensavo stesse venendo verso di me. Grazie a Dio. Volevo dire. Abbiamo combattuto insieme a una certa Maria. La conoscono loro, io non ho idea di chi sia. L'avete uccisa? No. No. Ah. È viva. Però abbiamo ucciso o fermato Diru. Fermato, l'hanno catturata. Se la sono portata via. Sì, se la sono portata via. Ah, tu hai perso un'occasione, Lieto. Eh già. Volevo tornare, ma mi hanno rotto le scatole. Lei mi ha rotto le scatole. Io? No. Io? No, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io penso di averti salvato la vita, onestamente, Lieto, anche perché con quelle persone lì non ci vuoi avere nulla a che fare. Sì, potremmo essere ricercati da molto di più di quello che eravamo già adesso. Ecco. Adone sorride e dice, beh, un'altra taglia sopra la nostra testa, quale cosa vuoi che sia? Sì, non so che tipo di reato sia addormentare un Dux, però in ogni caso, dai, vediamo. Hai addormentato un Dux? Sì. E anche mai. Maria Reziari. Ah, Maria Reziari era un Dux. Chi cazzo era l'altra? Magister. Yeah. Un Magister, sorry. Il livello sopra. Top 8. Esatto. Mif, mi rallegri le giornate. Genuinamente. No, non c'è nulla per cui rallegrarsi. non ho addormentato il vecchio, però. E... chi? C'era un tipo anziano, non ho capito quale fosse il ruolo. Descrivimelo. Tipo anziano, come hai fatto a scappare? Mi ha fatto scappare, mi ha detto di andarmene. È quello che... ha fatto lui il teletrasporto? Penso, sì. Vianic, io credo di aver capito come è fatto, non riesco a ricordarmi adesso l'aspetto fisico, Adone lo saprebbe descrivere a Mif. Hai letteralmente una foto, secondo chi pensi che sia. Ah, è vero! Ma dove... ma non so dov'è adesso, tu ce l'hai portata di mano? Dimmi una cosa che mi fa capire che sai veramente chi è, e che non mi stai... Silas! Non Silas, quello sopra di lui, che ho conosciuto anch'io. Ottimo lavoro. Dammi un secondo, la riprendo. Ah, era un anziano. Mi ha portato un messaggio, ma non penso tu sia nelle condizioni di riceverlo al momento. Ancora, no, se lui stata... ti ha portato un messaggio, me lo devi dire subito. Sa che è per me il messaggio? Sì, non esplodi? Niente più no. Folgori, niente più cose. Tipo, Mif che fa un passo indietro di nuovo. Ah, eccolo qua, sì, ok, sì, sì, perfetto. Me lo ricordavo così, ma... Mif dice... No, prometto di non esplodere. Non credo che ci sia niente che mi possa scalfire in questo momento. Dipende. È una cosa un po' privata. Non so se gli altri... Cioè, più privata per te, non per me. Niente, tipo... Non me ne frega un cazzo. Allora... Vieni un attimo. E fa un passetto in... Tipo, si allontana leggermente. Mi devo spostare? Mif lascia tipo è... due bra... No. Non ho, perché gli altri... Cioè, per... Io guardo all'dietro e nel frattempo dico... Hai intenzione di parlare con lui mentre è ancora nudo, oppure... Si deve vestire in qualche modo. Ma è nudo Adone? No. Sotto il fango c'è la vestita. Io pensavo che tipo fosse... Ok, okay, non ho niente, no, la gag. No, minchia, se fosse nudo l'avrebbe detto. Che figata. Un crono momento. Posso dire, sarebbe stato funny, però non avrebbe senso, cioè, non avrebbe senso proprio. Può essere rinato momento Lilith Diablo 4. No, esatto. Comunque Adone rimane a vista vostra, ma si allontana in modo che se Mif parla tono di Mif voce, lascia tipo... più di due sue braccia di distanza, va bene. Comunque al piccone ancora e fa non so che tipo di relazione avesse con te, però abbastanza in modo confidente mi ha detto di non cercare più tuo marito, di te, che genuinamente di non cercare tuo marito, non so perché, non mi ha detto per cosa, io me ne sono andata nel momento in cui si sono addormentati tutti, lui mi ha detto di non cercarlo più. Vedi che Mif è una persona perspicace e vedi che Adone si tende proprio i muscoli e percepisci che è molto arrabbiato in quel momento, si tende proprio. In un attimo si rilassa, si calma, fa un respiro, sospira e dice... capito. Grazie di avermi recapitato questo messaggio. Bene. Possiamo tornare dagli altri? Sì. Possiamo tornare dagli altri. Prego. Adone torna dagli altri. È sempre col suo piccone, piano piano. Sì, bene, non finale sei molto me. Il suo. Piccone. Il suo piccone. E appunto, tornando dagli altri, dice... Beh, visto che adesso siamo ricercati da Maria e i Magister... Non ne sono sicura. Cioè, io ho fatto una cosa, non so se avrà poi... Sicuramente avrà delle conseguenze, non so come. non nego che il fatto che, scusami, Piare, ci mi ricordi il suo nome? Azmoflower, il venerabile Azmoflower. Il fatto che il venerabile ti abbia lasciato andare e ti abbia anche recapitato un messaggio fa sperare bene, ma non ci conterei sul suo carattere benevolo e sul rapporto che avevamo. Adone, non hai capito, se quella persona sapeva, sa, non sapeva, sa che io e te siamo relazionati in qualche maniera, significa che sa che anche gli altri sono relazionati con noi e viceversa. Di conseguenza sono già a conoscenza di alcune cose, non va bene. Non va bene, ne sono consapevole, ma tu cosa proponi di fare al riguardo? Non abbiamo assolutamente le capacità per andare in città e fare uno sterminio, non mi sembra la soluzione adatta. Ma che non si faccia un contratto con l'entità giusta? Tipo? Non lo so. Vorrei prendere un certo libro sui diavoli. Ho bisogno di una rinfrescata di memoria. Vuoi che andiamo fino all'accademia? L'ultima volta è andata bene. L'ultima volta è andata molto bene. E ti servisse i sigilli di... Gli altri non credo ti serva. Che altri sigilli hai? Tipo, adesso diventa suspicious, perché veramente... Sigilli. Rimane così, generico. Adone, fare un libro? Fai il vago, più questa sera morirai. No. E comunque, non vorrei dire, ma adesso che ho castato Horoscope... Io potrei fare dei tiri per vedere se mente o meno. O prying, qualcosa di più. È palese che sta mentendo, cioè nel senso non lo sta nascondendo. E sta rimanendo vago apposta. Mi è ancora da cogliona e la prossima sessione che facciamo ti uccido nel sonno. Ma lo stai dicendo a me, Siri, o a me, Adone? No, Adone. Ah, ok. Cioè, proprio, ti dice, trattami ancora da stupida. E la prossima sessione che facciamo ti uccido nel sonno. Il punto non è trattarti da cogliona, Mif. Davvero, non ti reputo così. Ma vorrei solo un po' di rispetto. Vorrei guadagnarci anch'io qualcosa da tutto questo. E vi indica un po' tutti quanti. Non sei l'unica che ha... qualcosa da guadagnare, persone a cui vuole bene e obiettivi, insomma. Sento di aver dato abbastanza alla tua causa. Ciao, papà. Prenderò quel libro da sola, grazie. E Mif parte e... cioè, se ne va. Va bene. La seguiamo? E si gira verso voi altri due. Non abbiamo molta scelta. Volevi andare ad ammazzare qualcuno? E guarda Nibel. Ammazzare? No. Sistemare. Più che altro trovare le informazioni per capire dove si trova, però... non credo che... scapperà la signorina. Beep. State cercando una prostituta. Giuro, a quanto pare sa dove si trova la persona che sto cercando, ma non ho fretta. O meglio, si guarda il petto, tipo, in realtà ce l'avrei, però non è così importante. Intanto noi stiamo camminando seguendo Mif, immagino. Immagino, sì, dai. Okay. Sì. Adone dice, beh, dipende quanto velocemente dobbiamo andarcene dalla città. Ma nel senso... adesso che abbiamo cambiato genere. Io rimango abbastanza riconoscibile, quindi... abbiamo una monetina anche per te, vuoi no? Grazie, anche perché sono a corto. Bene, sì, non ho più monete, mi sa. No. Allora dice, io non ho più soldi. Tu magari no, ma secondo me Adone è il tipo di persona che si farebbe delle domande. Senso. Quando e come hai speso le monete? Non lo dire ad alta voce, ma pensaci. No, lo so. Com'è possibile? Allora, ci pensa, però così su due piedi non è che arriva una soluzione. No, no, però è il momento in cui, cioè, quando parla di monetina, ad Adone si accende una lampadina, una fastidiosissima lampadina che non riesce a spegnere. Ok, effettivamente, ok, vedi che Adone quando dice che non ha più monete, ci messo un attimino e fruga fra le sue cose, ha pure di non avere più monete. Manca anche qualcos'altro. No, no, no, no, no, che cazzo manca? No, no, no, no, no, no. No, no. Manca quello? Bastardo. No, no, no, no, no, ok. Vedete che Adone si ferma e dice torno subito e corre al tasso. No, no, non puoi avermi fatto questo, Vianic. Non so quanto distanti eravamo, però... Non tantissimo. Una volta che apri la scheda, tipo, c'è un flashbang sulla tua faccia. Sì. Lo so. Sì. Aspetta, lo faccio anch'io, probabilmente. Non so, ogni tanto. Ah! Tipo, questa è una flashbang. Questa sì. Niente flashbang. Niente flash. Mi sa che il mio è un po' più... Sì, il tuo è più luminoso. Io non uso lo schermo, quello grande. Per questo che sono girato da questo lato. Questo è il mio secondo schermo. Se lo metto sullo schermo, è tipo... così. È giorno. E adesso non c'è più. Zanzan, sei tornato. Eccoci. E frughi nel fango fino quasi a spaccarti le unghie, ma non c'è nient'altro che terra e sassi. Adone tira un bestemmione nella sua lingua natale, che non so chi conosce, e maledice una certa persona. Sempre nella sua lingua natale. Ritorna su e poi. Ma se il problema sono le monete, ne ho. Poi allungo una penna. Quindi dico. Grazie, Lito. E te lo metto in tasca. Non era quello che. Non era quello che volevi? No. Ok. Ho due manapenny, se vuoi. non è quello che lo vuole. Mi raccomando, non donarli alla chiesa di Diru. No. Anzi, magari se li doniamo alla chiesa di Diru, che non so, potrebbe essere evocata di nuovo e la salviamo dal giogo di quei militari, chi lo sa. Nivel ha fatto un punto importante. Dobbiamo tornare. Dobbiamo tornare al tempio e vedere. Abbiamo fatto abbastanza però campane. Sono vicino al tempio. Mi piace come idea, però. Scendiamo la strada, seguiamo Mif. Ma la sacerdotessa del Tempio di Diru, lo sto dicendo in character, non aveva fatto un patto per diventare Avatar? Quindi è lei che hanno catturato? O era l'Avatar precedente? Era l'Avatar precedente. Lei era... Era in Lizza, se non mi ricordo male. Non era lei. Esatto, ok. L'immobile locato. L'immobile locato. Adesso è lei l'Avatar in teoria. Se l'altro ha smesso di essere un avatar. Se non l'hanno ucciso, credo che sia ancora un avatar. Quindi, vabbè, possiamo avvisare la sacerdotessa in caso e poi sarà un problema suo. Effettivamente avvisarla può essere interessante. Va bene, io e Nipel andiamo al tempio. Pensa, sei andata al tempio poi di strada per andare dalla puttana. Okay. Andando dritti fate tutto. Magari se tutti e quattro abbiamo delle cose diverse da fare, possiamo dividerci tutti quanti, che ne credete? Io non ho niente. Rompere i coglioni ancora di più al master. Io mi adeguo. Ma no, io vorrei che ci tenessimo assieme per una cazzo di... No, scusami. Sì. A questo punto Adone urla e dice Mif, per favore, torna un attimo qua, dobbiamo decidere che strada fare. Mif, torna qua. Uomo ok, il Ghietto lo ascolta. Quindi torna indietro. Ciao, cosa c'è? Riferisce a Mif? No, l'ha già chiamata. Mi fa arriva. Ok, mi ascolta, ok. No, l'ha già chiamata, Lieto. Sì, appunto, ma no, è che Adone sta assumendo che deve parlare con Lieto per poter parlare con te, peggio. Con i bambini. Io queste cose da donna non così. Le voglio fare. Giggle, che me ne vado. Adone dice, ascoltate, cosa? Siamo ricercati e rimane il fatto che Maria Reziari qua, se il venerabile probabilmente non ha ancora castato il teletrasporto, credo, non lo so, non prendetemi sulla parola, ma se ho percepito quando è arrivato, dovrei percepire quando se ne va. Detto questo, non dividiamoci in questo momento dove siamo più vulnerabili, non abbiamo modo di comunicare fra di noi, cerchiamo di fare tutti la stessa strada. Io seguo voi, non ho nessun problema. Pensate davvero che se avessero voluto trovarci non l'avrebbero già fatto? Infatti, sto probabilmente sì, la stessa cosa. Se ora avevo una magia di localizzazione, perché non avrebbero dovuto averci anche loro? Questo mi ricorda a me, giocatore, non a Lieto in realtà. No, era una skill, probabilmente, niente, never mind. È una roba di non poter essere divinati, era tipo il risultato della... Però deve essere stata una schifo. Allora, Donne continua e dice... Io ci terrei a non morire di nuovo, d'accordo? Quindi seguirò uno di voi, a prescindere. Se vogliamo dividerci, d'accordo, dividiamoci. Secondo me... Quel fatto che devono occuparsi di Diru, non credo che li vedremo... molto presto. Neanche io penso che sia così. Sembravano sufficientemente intenzionati a sistemare l'avatar di Dio più che noi. Sì, beh, con me volevano cancellarmi la memoria, oppure fare un contratto perché io non parlassi, effettivamente. Non lo so. Sì, effettivamente vi siete separati, tu, Nibel e Mif, giusto? Sì, ho portato Lieto alla chiesa più vicina perché stava morendo. E cosa ti hanno detto esattamente, Mif? Ho aspettato, ho fatto due chiacchiere con Maria, giusto per vedere. Ero curiosa di vedere com'è che avrebbero fatto. E invece mi hanno detto che le opzioni erano... scordare tutto e quindi scordare il problema tutto riguardo le divinità, quindi insomma ne ho passate molte, oppure fare un contratto ed evitare di divulgare di questa cosa. Non ho fatto nessuna delle due, li ho addormentati e me ne sono andata. Ho fatto la scelta migliore, direi. Penso anche io. Una scelta migliore sarebbe tornare a casa in questo momento. Lo desidero molto. Beh, tutti quanti in questo momento, direi. Beh, quindi ci salutiamo qua. Ci rivediamo alla chiesa. E... Mif è... vuole proprio andare a vedere quel libro. Quale libro? Libro sui demoni. Ah, e la vedete che mi fa un attimino giù, cioè con le energie giù. Ah, può aspettare, penso. È indifferente. Sarebbe anche il caso di controllare l'isola dove non dovremmo andare. Lieto, ti prego, no. Non c'è proprio mi fa così, no. mi viene da piangere. Se non ricordo male, è anche qua vicino. No. È così vicino all'isola? Non mi ricordo se ne abbiamo mai parlato. Ma... Non è così vicina, ma dal punto più alto della città si vede all'orizzonte. ok, scusami, allora... Cioè, magari... Dormiamo... Se vogliamo... Su. Potremmo anche... approfittare, cioè andare a controllare l'isola mentre in città ci sono di loro e ci cercano, e magari ci togliamo un attimo dal cazzo. Io penso che Cronos abbia scritto quella lettera per un motivo lieto. Eh sì, ma non possiamo giudicarlo, non possiamo sapere se è stato lui scriverla. Se... Io sono d'accordo con Miff. Non mi sembra una saggia scelta andare su quell'isola. Per ora. Vedremo. Per ora, esatto. Per ora. Credo che al momento siamo un po' troppo... sballonzolati a destra e a sinistra. Forse è arrivato il momento di riposarci un po'. E che mi fannuisce, tipo... che è il fantasma di se stessa. Eventualmente ricalcolare le nostre opzioni. Non lo so, allenarci, trovare nuove strategie, nuove armi. Sì, effettivamente voglio una pistola. Ed eventualmente sceglierci avversari un po' più alla nostra portata. Più alla portata di un dio. Non credo di poter fermare un meteorite per una seconda volta. Guardo lieto con un sorriso ben specifico. Io eviterei di voler uccidere Nibel, onestamente, anche perché effettivamente dobbiamo trovarti una cura. Faccio notare comunque che Nibel è quello che ha gonfiato più di botte il meteorite di tutti noi. Perché dovremmo uccidere Nibel? A usarne la morte. Esatto. Ok, scusami. Lo noi direttamente. Sì, sì, allora avevo capito bene, scusa, non dice questa cosa. Avevo capito, noi dobbiamo uccidere Nibel. No, perché? Ridendo e scherzando, okay. Siete arrivati all'incrocio dei due fiumi e da qui avete da scegliere dove andare. Cioè, se volete continuare a parlare potete farlo fermi all'incrocio tra due fiumi, però se volete dividervi è qua che le strade si dividono. Cosa volete fare voi due alla fine? E dietro. Se Nibel vuole andare a sistemare i suoi conti, lo accompagno. Se volete, potete anche approfittare del quartiere Luci Rosse, eventualmente. Tipo, Miff si guarda. Posso provare le vostre nuove abilità? Tipo... Biff che proprio si guarda e fa... Proprio oggi dovevamo andare. Tipo, cioè, vedi che tipo si tappa il petto, no? Fa proprio oggi. Quale giorno è migliore? Viru dal pane a chi non ha i denti. Come se i bordelli non avessero delle macchine per cambiare sesso dentro, tra l'altro. Ce l'hanno? Ce li hanno? Sì, palese, sì. Dai. Ok, perfetto, se qualcuno lo dice a Biff, le migliorate un attimino il look. Voglio dire, uno esperto di bordelli, lieto, prego. Esatto. Oh. C'è chiaramente più di una macchina, più di un bordello. Ah. Ok, beh dai, allora sì, dai, mi hai convinto, una bella esperienza, andiamo. Magari può servire da riposo. Oltreoceano, una donna. Verso una lacrima. Esatto, verso una lacrima. Ok, quindi l'idea è che andate tutti e quattro nel quartiere... Lei non sa se tradisco o meno. Chi l'ha detto che tradisce? Quindi, insomma... E che sai che mi viene il dubbio effettivamente se tu hai detto di essere impegnato o meno? Perché hai menzionato sicuramente Promezia, ma non mi ricordo se l'hai presentata come la tua fidanzata effettivamente. No, non l'ho mai fatto. Lo lascerò sul vago. Sul vago? No, no, comunque sì, oggettivamente non hai detto che è la tua fidanzata. Beh, sicuramente la prossima promessa è una gran troia. Scusate, scusate, però è letteralmente quasi quanto la madre di Gieto. Cioè, oggettivamente, parliamone. Wow. A riguardo, Adore, vuoi menzionare qualcosa sulla madre di Lieto o no? Hai delle notizie nuove da dargli per caso? Aspetta un secondo, me le scrivi effettivamente perché mi sa ti che... Ti sposto perché facciamo prima. Sì, spostami un secondo, grazie. Ok, perché non mi ricordo... Devi prendere appunti. Quando hai ucciso Rigel, Rigel ti ha detto, io sono finito qua dopo che quella stronza di Promezia mi ci ha mandato e gli hai chiesto, ma chi è questa Promezia? È quella della Corona Nera. E tu hai detto, ah. Perfetto. Ok, allora vai, spostiamoci giù. Scusate. Scusate. Sì, figuri. Allora, mentre stiamo andando, che finite menzionata questa cosa, Adone dice, ah, comunque... Sai, prima, quando stavo raccontando quello che ho fatto, ho incontrato un collega di tua madre, se così lo possiamo definire. Mio padre? No, di tua madre. Promezia. Ah. Promezia. Sì. Guarda, okay. Non è per essere pignolo, ma collega era collega di suo padre. Di sua madre al limite era un dipendente. Sì, però... La definisce così Adone. Adone non le sa queste cose, ok? Okay. La brava con mia madre, le dipendenze di mia madre, va bene. Sì, un certo Rigel ti suona familiare? Ok. Sara non c'è o non sta reagendo? No, ci sono, okay. Sto avendo un momento steaming. Ok, tranquilla. Ha detto qualcosa? Credo che la sua opinione di tua mamma è che fosse una grande puttana. Questo è quello che ho percepito. Ce l'aveva un po' con lei. Sì. Non è la prima volta che lo sento dire, effettivamente. Dargli torto sarebbe anche un po' strano. Capisco. Sì. Comunque è morto questo Rigel, quindi... Ah. Sì, scusate, non rido. Leading on con questo sette pezzi è stato... Adone dice, sì, effettivamente è morto, quindi in ogni caso non... Ma quante volte è morto? Due, e basta. Sì, seconda volta che muore, poverino. Va bene. Pace all'anima sua. Grazie per averlo fatto sapere. Oh, madonna. Basta. Jokes tra me e te. Adore dice questa cosa con un sorriso gaio. Giocondo addirittura. Hai visto? Basta. Ben due. Sparatemi. Non ce la faccio più. Esatto. Andiamo avanti. Ok, e per andare nel quartiere a luci rosse, che vi piaccia o meno, dovete passare di fianco, se non sotto, il tempio di Diru. Quindi, dopo aver guardato il fiume, siete in prossimità del tempio, in prossimità più che altro del punto in cui avete incontrato Cronos la prima volta, che sembra essere stato un millennio fa, era ieri. No, non era ieri, letterale. Era letteralmente ieri. Ieri. Era ieri plus ma minus. Era ieri quando avete riavvolto il tempo un tot di volte, però cronologicamente era ieri. Cioè, è stato un giorno. È vero. Posso... Madonna. Ok. Andiamo avanti. Sembra ieri che abbiamo incontrato Cron. Era ieri, Adone. Era proprio ieri, Adone. Adone è come il meme che ho mandato. Adone è subplot. Fucking literally, yeah. Wow. What a week. what a week. It's just Wednesday. Ah, it's been a good year. What a mean a year. È il 2 gennaio. è tipo mezzanotte del primo. No, effettivamente in campagna si è portato per Adone, dico in particolare, un mese e mezzo da quando è partita tutta sta roba? Meno. Sti pariti il 27 settembre è... No, sì, un mese e mezzo, sì. È un mese e mezzo. I cazzi. Ma potevo ricordare... Stai facendo carriera, tu. Andiamo avanti, andiamo al quartiere delle luci rosse. Ok, niente, vi volevo chiedere uno per uno cosa volete fare, se vi interessa fare qualcosa, se ve ne fregate altamente. Tu cerca di accumulare quanti più soldi possibile. Ah, ma cosa, cioè, cosa fare al quartiere di luci rosse? No, siete, non siete ancora arrivati, siete prima dal tempio di Diro, lo ignorate e andate dritti, questo mi serviva. Tiro lieta per la collottola. Linnea. Linnea. Eh no, ma non ti sei ancora presentato come Linnea. È vero. È vero, e allora mentre mi tiri Linnea, grazie, no. Ah, ok. Tolgo tipo la manina. E Nibel e... indicando qui con la mano a Mif. Tipo Mif proprio... cazzo, non mi vedete. Datemi un attimo. Sono crashato, amici. Carica. Ci sono. Okay. Ci sei, ok. Mif fa proprio... Ho bisogno di un nome, un soprannome. Qualsiasi cosa tu vuoi. Miffo. So. Non lo so. Eric. Cartman. Marco. Giulio. Andrea. Tipo Miffo che sta guardando lieto. Sono tutti i nomi del mio paese. Che cazzo vuoi? Che nome di merda. Ah, mi chiami Micadone. Ehi, Linnea, appazzi Tony. Guarda che se ci fosse qua Kronos darebbe ragione a me e tu saresti qua. È vero. Invece... E vedi Cadone a questo punto dice Godric, Edric, e vedi che ti inizia a pronunciare altri nomi che però ovviamente sono della sua zona. Con un botto di consonanti, proprio veramente tante. Godefroy. Sì, tipo, si gira verso Nibel e fa Nibel, se la mia ultima speranza. Vuoi un nome? Mi fa proprio... Se devo. Non lo so. Qualcosa che mi rappresenti. Davanti a voi c'è una capra. Ah. È un'idea. Capra. C'è ragione. Sgarbi. Vittorio. La capra è al guinzaglio. È attaccato al guinzaglio. È il tizio. E c'è il tizio lì? Mi fa DH di momento, letteralmente. Vede la capra, vede il guinzaglio. C'è il tizio lì? C'è un signore molto anziano che non vede un cazzo, che veramente è praticamente cieco. E che a giudicare da dove si trova si deve essere perso, perché è all'estremo nord-est del quartiere a luci rosse. Che voi la chiamate così, ma in realtà sono... Cioè, è Pauperia, è la città ai piedi di Apeira. Mi fa guardare Nibel, come per dire... È il vescovo? Sì, è il sacerdote di Vama. È del muore. Aspetta, io l'ho incontrato sto tipo? Ah, ok. No, come no? No, non c'era. Solo Mif e Nibel. È vero? No, è lieto. Quando abbiamo c'era anche lo shawarma, ma non c'era... È vero, è vero. Hai ragione. Okay. Era prima o dopo il time skip? Prima. Non che prima. Faccia la differenza su un tizio con una demenza senile. Sì, però. Infatti, lui comunque non si ricorda un cazzo. Okay. Amico okay. Vostro? La capra vi guarda, no, invece. È mi sta guardando con le sue pupille rettangolari. La capra, quante corna ha, Bianic? Due. E che colore è? La pelliccia nera. Cioè, grigio scuro, dai, non nero. Tratti ermafroditi? Vuoi guardare sotto la gamba se c'ha il pisello? Che okay, allora non lo sai. Sì, no. Si è perso, signor sacerdote? Come? Si è perso, signor sacerdote. Urla. No, no, no. Sto tornando a casa. Dov'è casa sua, signore? Urlato. Qui vicino. Vicino a Pauperia? Sì. Un pochino più a sud. Sacerdote, ci sono anch'io, sono Nibel. Ci siamo visti... Oh, Nibel! Quanto tempo! Come sta tua moglie? Sta bene, sta bene. Salutamela tanto. È un po' che non viene a messa. Glielo farò sapere. Mi ricordo il tuo matrimonio. Bei tempi. Sì, ma il tempo passa. Tempo passa. Sembra ieri. Sì. Insomma, cosa fai da queste parti? Stavamo facendo una passeggiata tra i boschi e stavamo pensando di andare a trovare una persona per chiedere delle informazioni. Ah. Lei non ha sentito parlare di Adelfo Scliseto, giusto? Mi ricordo di Adelfo, veniva da me, non si è mai sposato, testa di cazzo. So che non è particolarmente apprezzato neanche dalla sua famiglia, a quanto pare. E mi sembra che suo cugino è sacerdote, vero? Sì. Sì, sacerdote lui è... di... Non ricordo il nome. Manco lui. Glielo so. Fare. Ah, è vero, è vero, è vero. Bravissima persona, sacerdote. Solo... Sì. Secondo me, sai, cioè, è brutto da dire, sono un sacerdote, ma secondo me non ci crede più tanto. Le sorprenderà sapere che ha da poco riscoperto la sua fede. Ah sì? Ma che bella notizia. Fa molto piacere. Se dovesse andare a trovarlo, a salutarlo, magari... Potrei farlo. Potrebbe farle piacere... avere un'altra persona con la quale fare degli scambi riguardo l'argomento. Il vecchio tira il guinzaglio, la capra si avvicina e fa: Carolina, ti ricordi come si arriva alla chiesa? Ciao Carolina, fai strada. Ciao ragazzi, bocca al lupo con tutto. Che va, ma faccia attenzione, mi raccomando, non vada troppo di fretta. Wow. Mi ha fatto un cazzo di quello. Bene. Lo vedete andare verso il centro della città. Faccio un sospiro. Possiamo andare? Sì, direi possiamo. Comunque, potete chiamarmi Yuri. Biff, tipo che si gratta un attimo i ricci, che sono corti, non sono più lunghi, certo, sono corti. E i miei personaggi preferiti, Yuri e Yaoi. Sapevo che l'avrebbe detto, lo sapevo. Ma tornato, sì. Bello, bello, però mi ha fatto ridere lo stesso. Adesso Adone usa anche lui la gender machine. Com'è che si chiama Lieto? Linnea. Linnea. Proseguite... Non c'è una strada principale in questa quartiere, ci sono una serie di vicoli e c'è una parte centrale aperta con un po' di campi, un po' di robe, piazze, diciamo. E dopo pochi minuti che camminate arrivate in questa zona qua e Nivel sa esattamente dove si trova il bordello ed è sulla sponda del fiume. Quindi dovete fare ancora un pezzetto. Dal punto in cui siete però, vedete a sud-sud-est il Tempio di Vama, cioè le colonne che lo costituiscono si vedono già da qua. Dietro il Tempio di Vama, rispetto a dove siete voi, c'è la centrale di Mana. Alle vostre spalle c'è Apeira e sud-ovest c'è il tempio di Zagon, il dio del mare. Questo è un po' la panoramica di quello che vedete intorno. Dove che siamo? Tipo qua. Scusa, non ho rotto. Siete più qua. Ok. Posso skippare un pezzetto. Infatti da qua vedi il tempio di Vama, il tempio di Zagon, la centrale umana, e qua c'è la città. Okay. Dovete tirare dritti a una di queste case qua. Ma quindi Adone, vuoi usare la macchina anche tu? Adone ci pensa un attimo e dice perché no? Finché siamo vai qua. Così. Facciamo... Cioè... Guarda, se tu e Mif e... volevo dire, Yui... Mif scops. Magari... Basta una molettina sola per due persone. Poi in ogni caso, effettivamente, se ci stanno cercando, non credo che cambiare il nostro aspetto cambierà qualcosa, però... Divertiamoci. E a questo punto Adone vuole... anche lui il cambio. Insomma. Ok. Io penso che eviterò. Credo che la mia corporatura da uomo sia l'ultimo baluardo di salvezza per la mia vita in questo momento. E mio? Saresti una muscle mommy? Sì, esatto. Probabilmente, però non so quanto la fisionomia che... di una donna possa farmi sopravvivere. Beh, tecnicamente, scientificamente, che dice muscle mommy così in mezzo al discorso. Sì, sì. No, scientificamente parlando, le donne hanno una corteccia da qualche parte sulla spina dorsale del collo, lì, più sviluppata, quindi trattengono meglio il dolore, sopravvivono meglio a quel tipo di mali fisici lì. Sì, in generale sì. Scientificamente è vera. I'm not bullshitting. Che abbiano più resistenza al dolore è normale perché devono passare il parto. Esatto. Però più che altro è questione di proprio la malattia di Nibel, che non so quanto la corporatura avere femminile. Il ciclo e la malattia di Nibel. Scusate. Sarebbe terribile. Magari vanno in pari. Cioè, sì. Si sistema, no? Dici. Bello. Probabilmente è tipo in menopausa anticipata Nibel. Per una donna la malattia di Nibel è tipo la candida. Vuol dire sta cagata qua. Facciamo i biscotti. Bene. Andiamo avanti, facciamo questo cambio del gender. Vabbè, siete arrivati io. Al bordello. Su candida non hai letto. No, facciamo i biscotti, non ho letto. Ah, ok. Scusa. Ok. L'ha detto l'altra volta Bianici, quindi... In realtà facciamo i biscotti che non si affrontava. Faremo c'era una TikToker che ci stava quella cosa. Quella è la mia citazione. Dicevo, siete arrivati al bordello. È esattamente come ve lo immaginavate. Un edificio in un vicolo, quindi non proprio alla luce del sole. L'insegna è di legno, vecchia, tutta rovinata. E era il fiore d'oro, un nome del genere, l'avevamo detto, non lo ricordo. E niente, è aperto. Il momento. Ad accogliervi, tutti e quattro, c'è la matrona del luogo, che è una signora... Si fa prima a saltarla che a girarci intorno, userò questa metafora. Non ho capito. Si fa prima a saltarla che a girarci intorno. È bassa e sferica. Ok, però, grazie. Okay. Sferica, e quindi con due airbag fuori misura. Benissimo. Proprio... Ci siamo. Hai presente l'omino Michelin? Con la gonna. Che puttana. Qualcos'altro? Ci arriviamo. Oddio, ne ho una per Mirko, ma non c'è Mirko, te la scrivo. Dio mio. Ma dillo a tutti, perché... No. Esatto, perché... Secondo me fa bene. Faccio molto bene. Sapevo che era per Mirko. La teniamo per noi due. Ok. ha una voce acutissima da tabagista, quella, sai quella voce da zia vecchia maledetta che fuma 40 pacchi di sigaretta. Ho clienti, come posso aiutarvi? E i miei due compagni stanno cercando una gender machine. Ah, siete siete un po' È il mio compagno Yuri, e gli do una pacca sulle spalle. Ha dei gusti, insomma, ben specifici. Capisco bene, capisco. Io prima mi volta. Fa che ti sporta di sorridere, no? Con due borse grandissime sotto gli occhi, no? Guarda, giovanotto, là in fondo c'è una tendina, se vai dietro puoi usarla, devi metterci i tuoi manapenni, chiaramente. Ovviamente. Linnea, vieni anche tu? Certo, ti accompagno, Yuri. No, no, no, io penso che vado così ancora per un po'. Ok. È comodo alla fine. Noi possiamo servire tutti i tipi di clientela, se mi spiego. Si è spiegata molto bene, signore. Vuoi fumare? No, grazie, non posso. No, si accende da sola. Ha tipo un accendino a manapenne, una roba stranissima, perché la fare per infilarci i manapenne è grosso così, l'accendino è molto più piccolo. No. La fare per i manapenne. Esatto. Wow. Fiammiferi, signore, no, quindi che schifo. Cioè, l'odore di fumo sta appezzando l'area in maniera abbastanza permeante. Sì, non credo. Non credo che uscendo di qua l'odore se ne vada facilmente, vi rimarrà addosso per un po'. E è tutto sul velluto rosso, però li dà un po', quindi è più vinaccia, però è anche un po' sporco, quindi è più viola. Sono delle chiazze qua e là. I muri sono imbottiti. Hanno di nuovo c'è presente quegli alberghi antichi che c'hanno quella cosa orribile lì. Quelli di voi che non hanno i polmoni a posto non respirano qui dentro. E anche la tenda è di velluto rosso. Spessa 4 centimetri, una roba folle questa tenda. Tira la tenda, no? Sta già iniziando a tossicchiare per l'odore di fumo, le dà molto fastidio, infatti la vedi che anche, oltre ad essere stanca, ad essere veramente stravolta dalla giornata di oggi, è incazzata a bestia, quindi poi prende il suo manapenny, lo caccia dentro la macchina, fa, sei pronto? Pronto. E tossisce anche lui perché vedi che anche lui dà molto fastidio il fumo. Almeno una cosa in comune la... Tira giù, potremmo averne di più. Adone dice: potremmo averne di più. E poi usi la gender machine. Adone avverte il suo battito cardiaco accelerare. Senti una sensazione di calore e prurito un po' in tutto il corpo. Solletica un po' tutto il corpo. E al termine del processo hai cambiato genere. I capelli rimangono della stessa lunghezza. I tuoi tratti si fanno più femminili, se possibile, perché Adone, ti ricordo, è un finocchio maledetto, quindi è già molto effeminato il suo. Ed è tipo 2 centimetri più basso di prima, cioè è una cosa che non ci faresti caso. Niente. Cioè... È quella prima. Sì, esatto. La taglia di seno, credo... Terza... Piena. Piena, onesta, dai. Onesta. Minchia, te le tettone allora. Ma so bene. Sono grandi. Rispetto a lieto. Posso dire una cosa? No, la tengo per me. Forse sarà capito, però... Se ce l'avessi io. Con 3 taglie di troppo per Bianca. No, ce le ho io una terza piena, okay. Cioè... Non è poco seno. Ci sta. Infatti. È più questione di come sono gestiti. Va bene. Nel suo caso sono gestiti normali. Fitta il suo corpo, conta che rimane dell'altezza di Adone, quindi è più alto di te in real. Eh sì, è oggettivamente più alto di 5-6 centimetri, 7 sì, centimetri. Okay. Vabbè. Adone vedi che si guarda, allora, Miff torna Miff, immagino. Sì, torna Miff. Adone, oh, guarda... C'è la gente, Rosy. i capelli, fa. Non è cambiato molto, senti il tono più acuto di voce. Ma neanche di così tanto, perché Finocchio... Sono contento che l'abbia detto tu. Miff ti, tipo, ti fissa le tette, no? E fa... Uh-huh. Ti guarda... Tipo... E si tira un po' la giacca. Non è cambiato molto. E poi batte tipo il figlio, no? E fa... Mi fa piacere sapere che quando se la dovrò usare nel futuro non ci saranno grandi cambiamenti. Tipo, visto che non ti risponde, no, riapre la tenda e se ne va. Mi segue a ruota. Che mi tiene poi da lontano, credo che dite... Ah, ciao Adone. La signora ti schiaccia l'occhio. Cosa? La signora da lontano ti schiaccia l'occhio, proprio. Ah, ad Adone o a Miff? Ok. Devo fare una domanda. Certo, quali sono i tuoi gusti? Promezia, dove si trova? Ah, gusti interessanti, al piano di sopra con un cliente. Ho bisogno di lei. C'è da aspettare. Te la prenoto, non c'è problema. Non chiedo di avere tempo, onestamente. Può chiamarla per parlare? Durante una performance? Non credo. Saremo disposti a pagarle il disturb. Alza un sopracciglio tantissimo. Un mio Michelin con il sopracciglio più alto della storia. Vabbè. Quanto? Quant'è di solito? Quanto è la performance? Le mie ragazze prendono dai 3 ai 7 manapenny l'ora in base a quanto va. La promezia quant'è? 5. Non è la più apprezzata, ma tiene banco. Si tratta di pochi minuti, non la tratterremo per troppo. Le offro 5 manapenny per questi minuti. La signora picchietta sul tavolo e poi aggiunge: come mai vi interessa tanto? Non vorrete mica fare del male alle mie ragazze? No, dobbiamo solo farle delle domande. Siete della polizia? Se... No, non ci mancherebbe. Se è preoccupata può anche parlare qua con noi davanti a lei, non è un problema. Vabbè. Anzi, posso anche approfittarne per fargli una domanda. Adelfo Schiriseto. Quel figlio di puttana mi deve un sacco di soldi. Benvenuta nel club. Volete sapere per che quello... fine ha fatto? Sì, abbiamo saputo che Promezio potrebbe sapere qualcosa. Per questo che siamo qua. Senza rompere i coglioni alla mia ragazza. L'ha abbandonata sull'altare praticamente. Pochi giorni prima di doversi sposare avevano già preparato la cerimonia al tempio di Vana. Lo stronzo è sparito. Preso la prima barca verso Aniasmea, o così hanno detto. Però più realisticamente, beh, è andato in un altro posto. Uno dove la mafia non arriva. Sa per caso cosa, per cosa aveva bisogno di tutti questi soldi? Anche a me mi ha lasciato a secco. Adelfo aveva un sacco di vizi. ha passato tutta la vita a fare cose che non avrebbe dovuto. E ha contratto un sacco di debiti, alcuni con la mafia, alcuni con altra gente. E questo è quanto. Se dovessi trovarlo, uh-huh. Cosa è più importante per lei? Di avere i suoi soldi o vederlo sparire dalla faccia della terra? I miei soldi, non me ne frega niente di lui. onesto. Allora uniamo l'utile al dilettevole. C'è un'isola. È famosa perché, nonostante sia nel mezzo del Mar Senico, la mafia, la Corona Nera, non ha nessun controllo lì. Qualcuno dice perché c'è un altro potere occulto, ma chissà quale sia la verità. Beh, Adelfo dovrebbe essere andata in quell'isola. Perché no? Andare in quell'isola. Vedremo. Vedete anche da bere qua. Quello che vuoi, amore. Un oppioide potente di qualche genere. Qualcosa che mi sballi in questo momento. Da bere un oppioide, ha detto? No. O da bere o un oppioide. Oppioide, c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, proprio c'ha un tabaret di bombe. Quello momento della giornata è? In realtà è tipo tra le 3 e le 4 del pomeriggio. Ok. Cioè, non è tardissimo. Più le 4. Più le 4. Miff allora fa quello che può farmi fare una bella esperienza di questa vita di merda. Ho quello che fa per te. Tira fuori un sigaro con la copertura rossa e dice: è sulla casa, se mi portate i soldi. L'isola si chiama Esbozon. Biff che lo porge il coso a Nibel per farselo accendere. La signora te lo accende. Ok, a posto. Cioè a tagliare tipo il culo. Sì, l'ha già tagliato lei, sta molto gentile. Okay. Ok, mi si ringraziano e inizia a drogarsi. Io prendo la mia boccetta di alcol, vedo se c'è ancora qualcosa dentro, bevo. Una cosina. Ehi, non puoi bere roba presa altrove qua dentro. Vuole favorire? Ah, sì. E lo assecca. Se la finiamo, vorrei riempirla. Sente il sapore, dice... Non ho qualcosa di così forte, però qualcosina. Vabbè, altro, non importa. Dai, sedetevi al bancone a questo punto. Sono effettivamente io penso che si sia stravaccata su una poltroncina, no? Quindi tipo, però... Esatto. A questo punto Adone si siede al balcone. Cioè, se gli altri si siedono... Sì, mi siedo. Vabbè, posso avere anch'io uno di quelli? Quanto le devo? In genere li diamo in regalo alle esperienze con le signorine. Di nuovo offre la casa se mi riportate i soldi che mi deve Adelfo. Però farò il possibile. Mi deve 4 mana unit. Ma dove fa questa faccia? La faccia o cazzo Adelfo comunque, cioè... Ha derubato una centrale questo. Veramente. Non abbiamo mai discusso effettivamente quanto mi avesse portato via, però cioè, nel senso gli avevo affidato l'economia della mia famiglia. Sì, sì. Un bel po' di soldi. Non a questo livello. Ok, questo livello sì. È strano. Certo. Non mi faccio domande, onestamente. Però... farò il possibile per fargliela pagare e per riportarle i soldi indietro. Non posso assicurarle che ritorneranno tutti, non perché ho intenzione o interesse di tenermele io, ma perché non so quanti di quei soldi saranno ancora disponibili, conoscendo la persona. Si è trovato modo di non farsi ammazzare su Esbozon. Avrà sicuramente qualche business clandestino e potrai rifarti due soldi con quello. Si è trovato un modo per non farsi ammazzare. Purtroppo per lui i suoi giorni infortunati sono arrivati al termine. E mi accendo il sigaro. Dopo, cioè, state lì un po'. Sì. Qualcuno vuole andare al piano di sopra, è libero di farlo, ovviamente. O di chiedere prestazioni sotto una persona a caso di questo gruppo proprio. Sì, sì, stiamo tutti guardando Ica e... però se non fate fin tanto che ho questo corpo, I guess it's time to spendere. Vianni, c'è a dire il vero, Adone eventualmente chiede se c'ha, se può avere una stanza privata per i cazzi suoi, per passare senza una signorina. Vuoi dei giornaletti? Sì. Dice sì per... Ma... sì. Sì, sì. Ah, non sei Adone, prima. Non ti pensavo il voglio. Non sei la prima. E... sarebbero due manapenny. No, gli unici due manapenny che ho. Te l'offro io, dai. Ti ho no, offerto vabbè. Ica prima. Vai e divertiti. Vai. Vengono dati altri due manapenny. Prego. Perfetto. Hai la tua stanza privata e mi direi dopo quali esperienze onanistiche avrai. Il giornalino che ti dà è strano. Mi limito a dire questo. Ok. Ha letto i gusti di Adone. Dear Funter, all'occhio, il ritorno. All'occhio acuto per questo genere di cose. Perfetto. Anche Linnea va a farsi un'esperienza benissimo. Allora Lissi che tira fuori il pantone delle puttane. Mi piaceva questo termine. Si alza e va a vederlo perché vuole l'esperienza. La curiosità. Ok, notate che sono 7 donne e un uomo, e l'uomo è più femminile delle donne. Non posso, vi dico questa cosa. E donne sono di tutti i generi, sono tutte abbastanza giovani, tra i 20 e i 25. E l'uomo rimane in questo range. C'hai tutto il tutta la lista tra cui scegliere, e ci sono un po' per tutti i gusti. E Linnea tipo indica l'uomo e lui come è messo? Nah, non è il tipo da andare con le donne. Capisco, immaginavo. Oh, ma se vuoi poi fargli usare la macchina per cambiare genere. Offriamo anche questo servizio. Magari ad una donna che è disposta. Per un periodo avevano installato la macchina per trasformare la gente tipo druidi in animali, però la gente ne abusava e quindi l'abbiamo tolta. Il monster fucker, talmente. Sì, cioè c'è un limite a questa cosa e la gente l'ha superato, quindi l'abbiamo dovuta togliere. No. Ottima idea, sì. Nel tuo lore, comunque. Il apprezzo la morale. È il bordello che ha dovuto togliere la macchina. Sì, basta, raga. C'è un limite. A Vicenza, anche in un bordello. Nibel, tu non favorisci? No, sono sposato. E... anche Adone. Sì, infatti Adone sta facendo una cosa specifica. Che poi racconterò a Bianic. Purtroppo non può fare quello. Scusa. Vabbè. Sta morendo. L'abbiamo uccisa. Dovete ruolarla quindi adesso voi due. Certo. Per forza. Per forza. Unica opzione. Dai, Piani, ci prendi la macchina, vai da Ica e fatelo IRL. Ma guarda. Quasi quasi, l'unica cosa è che deve fare Ica la donna, se gli va bene. Ma non perché avrebbe fatto qualcos'altro anche fosse? Fortunatamente nella vita reale. Ahimè. Ahimè. Stavo cercando di uccidere Sara Irl. Non che sia difficile, per l'amor di Dio, però... Sì, sì, sì. Un problema in più, né in meno. Ma a chi era quel riferito? A Vianis. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Hai da scegliere la tua signorina, puoi, puoi fare il tuo Build-A-Bear. Bello, però devi farci anche. Esatto. Non posso, non posso letteralmente, è l'unico momento. Dai, ti sforzi, c'è qualcosa entra. Però è l'orsetto che farcisce te, che strano. È vero, è vero. Può usare la gender machine per prendere una cosa che è disposta. Esatto. Posso dire una cosa? La sessione di Ludovica non è divertente come questa. Punto. Punto a capo. Punto a capo. In tutto questo io ho flammato Ludovica. Prima. Che se mi ha mandato un disegno che ha appena fatto e io l'ho flammata. Che brutta persona. Okay. Però sembra un brontosauro quello che ha disegnato, scusatemi. Beh, il brontosauro. Dito scelle chiaramente la più giovane, in assoluto. Che è la sua età, più o meno. Esatto. E... vabbè, non ha dei gusti particolari, anche perché a questo punto sarà una cosa diversa. Quindi... la prima, la più giovane, quella. La non più è... giovane si trasforma alla barba, sei già al piano di sopra, siete già in una stazione intima, e chiede se deve togliersela. Beh. E in maniera molto dolce, molto delicata, ti fa sentire molto a tuo agio, ti carezza i capelli, passa non le sue mani. Non è quello che avevo chiesto. Come? Non è quello che avevo chiesto. Devo prendere le catene? Non avete mezzo, ma... quindi non BDSM, però forte, violento. Ok, ok, bisogna capire, il consenso è molto sexy. È molto sexy. No, però andiamo avanti. Alito si è seccata completamente la figa, ma questa è parte della sua strategia. Perché è tutto più divertente. Tirare i pugni sulla figa, gli ho detto cosa cazzo vuoi, cioè... ho detto una via di mezzo e lui è andato oltre, giustamente. No, un piercing al clitoride con i canini. No, bellissima come immagine, ma per noi che non abbiamo il clitoride, meno. Meno, cioè per noi è una cosa che ho detto. C'è un film apposta su quella cosa. C'è un film per tutto. Quale? Per vabbè, sì. Si chiama Denti. Ah, vabbè, ci sta. E... ok, l'altra cosa quindi è semplicemente che ti fa capire quanto è più virile, quanto è più mascolino, quanto è più forte, quanto riesce a dominarti e a sottometterti. No, vabbè, ci siamo quasi, ma va bene così. Ti strappa i vestiti di dosso dandoti della puttana. Siamo? Ci siamo? È quello? E ti possiede a pochi centimetri dal letto. Mi piace che questa cosa sta uccidendo Saga. Sì, fantastico. Come fanno due amici che sono amici da tanti anni? Questo, ruolano due personaggi che scopano tra di loro in modo leggermente violento. Come altro sono le amicizie? Siamo, non so che cazzo di personaggi. La campagna non arriverà mai a un livello così alto. Sta parlando in Veneto, sta scrivendo in Veneto, a un livello... signora, altissimo. Fiori e signore. Oh. Va bene, gli dire che questo è il segnale, sì, che è mezzanotte e mezza. Sì, sì, sì. Che... ok, perfetto. Basti... ah, tua mamma è venuta a chiederti perché ridi così forte prima. È bello che il microfono non ci prova neanche più, tipo... no, tipo è mutata, mutata. Mutata, ok, ok. Come gliela descrivi la cosa? Poi tra c'è un'altra cosa che non sappiamo come descrivere al vescovo, probabilmente. Vabbè, non serve che descriviamo sta cosa, credo. Ma i... portare delle luci rosse. Sta piangendo fortissimo, è assurda sta cosa. I sigari. Come funziona, che fanno i sigari? Ah, niente, sono praticamente oppio puro. E a una persona normale gli dà una botta notevole, cioè ti stordisce quantomeno già da subito. Allora. Quella che sta ricevendo linea. Sì, tutto registrato. E... ovviamente. No, i sigari sono molto... sono oppio puro, letteralmente. E in quanto tale ti stordiscono, ti fanno passare la fame, ma ti danno un senso di relax. Se avessi della fatica la toglieresti. E se vai in eccesso, al limite che puoi prendere al giorno, vomiti. Tutto qua. Biff e gelatina sul divano. Cioè, generalmente, se qualcuno le fa qualcosa, va bene. Cioè, proprio lei è nel suo nirvana. Gelatina su quel divano. Esatto. E anche fra le gambe di Nessa. Pensavo di Adona. Per motivi sbagliati nel mondo, credo che Adone si farebbe chiamare Promezia. Ma bello, mi piace molto questa cosa. Cioè, comunque... ti giuro, nessuno gliel'ha chiesto, ma se gli avesse chiesto il suo nome, lui avrebbe detto Promezia. Sta. Guarda il nome del bot, Pianic. Cambialo, no, dai, non si merita tutto ciò. C'è ragione, è giusto, è giusto. C'ho un nome migliore, cioè. No, non chiamarlo Adone. Ah, ok, ci sta. Mi piace, approvo. È stato fino adesso il filo rouge di questa campagna. Sì, sì, sì. Non importa quante volte lo ammazziamo, torna. Filo rosso al quartiere rosso. No. Comunque, vabbè, vi voglio fare l'ultima scena, poi chiudere. Vai. Quelli di voi che sono puttane, ma quelli di voi che sono rimasti nella hall, dopo 20 minuti, mezz'ora che siete lì, vedono che scende una giovane donna, forse la più grande, la più anziana tra le ragazze che ci sono lì, con i capelli rossi abbastanza lunghi, mossi, non ricci, di un rosso naturale, cioè si vede che è un rosso, non è quel rosso mattone delle tinte, magra, seno accennato, cioè una seconda, con i vestiti baggy non si vede particolarmente. E si vede però che ha i capelli scompigliati e non è truccata. E subito dopo di lei scende un ragazzo, ventenne, che la ringrazia ed esce furtivamente dalla casa. Deimos, ciao, come stai? Non credo. Il padre è venuto in camera e mi fa, guarda l'ora. Ok, l'ho guardata, e ora? Clanum. E la giovane donna guarda Mif e Nibel, che sono gli unici due nella stanza, e se non dite niente lei non vi dice niente, semplicemente vi guarda un attimo. Mi sa, posso sapere il tuo nome? Promezza. Fa un cenno alla signora, la matrona, che come un omino Michelin versa un alcolico molto potente in un bicchiere e glielo porge. Stavamo cercando, in realtà. Ah. Niente, ho bisogno di strano, per... solo qualche domanda. Questo è strano? Sì, probabilmente per il tuo business, effettivamente, sì. Se vuoi condividere con noi la tua bevanda. Ammazza in un fiato il bicchiere e lo sbatte sul tavolo e dice: no, dimmi tutto. La tua matrona già ci ha dato qualche informazione, però stiamo cercando Adelfo. Vedi che fa proprio una espressione di disgusto, di disprezzo. Come mai cercate quello stronzo? Per fargliela pagare. Allora sì che mi fa piacere. Qualcuno dovrà pur farlo. Voi mi sembrate molto impegnate con il vostro lavoro, io sono un po' più libero. Abbiamo tanto tempo libero e tipo mi falzo il braccio, no? Dalla poltrona su cui è letteralmente spiaggiato. Abbiamo. Lui doveva sposarmi, ma poco prima, la settimana prima della cerimonia, è scappato con la nave. Con la nave? Pubblica, sì. Privata? I suoi amici hanno detto che ha preso un traghetto per Agnasmea, ma siamo tutti con una balla. Ah. Dove ha rubato una scialuppa di qualche genere e è andato remando fino a Desboson. Ok. È una conferma, quindi. Se buono sapersi. Aveva già preso informazioni negli ultimi tempi. A me aveva detto che doveva essere la nostra luna di miele. E io, idiota come sono, ci ho pure creduto che volesse portare su un'isola disabitata. Non è colpa tua. Si è fatto una stronzata, è colpa sua. Fa un cenno indicando il bicchiere. La signora glielo riempie e ne stecca un altro. E quindi siete della mafia? Non proprio, privati, diciamo così. Ho capito. Beh, portategli i miei sentitissimi saluti. Non so se gli serviranno alla tomba, onestamente. Lei fa una magia di qualche genere. Nessuno di voi ha le conoscenze per capire cosa sia. E dalla sua mano compare un fiore rosso. Te lo porge e dice: gettalo sulla sua tomba. Lo guardo. C'è qualcosa di strano il fiore? Ha chiaramente una forza magica. Per il resto, non particolarmente. Sembra una margherita rossa. E che è una cerbera. Nome. Si chiama così? Una cerbera. Ok. Mi fido di te. E Mac Felice. Sì. Sarà fatto. Anche se onestamente non so se lo merita. A meno che nel linguaggio dei fiori non sia un insulto. È solo una cosa che ha fatto il nostro primo appuntamento e gliela restituisco. Va bene. Metto nella giacca. Infilandola con cura. Su questa cosa, fine della sessione e andiamo in Aiatus. Ok.